È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. E poi dice, caro Parenzo, che siamo noi a parlare sempre della questione omosessuale. Non ne parlerò a lungo stasera, non ti preoccupare, anche perché so che ti sei ripreso a fatica da quello che è avvenuto ieri sera, dal colpo apoplettico che ti abbiamo fatto prendere io e il professor Sgarbi insieme al suo avvocato, ma racconteremo tutto più tardi. Ieri vi beccherete una denuncia perché sono mio fisico ne ha risentito in modo indelebile. Sì. E riceverete dal mio avvocato i danni ancora, morali, ancora. Sì. Morali, civili, è una cosa gravissima quella che avete fatto, ho già parlato con il professor Taormina anche. Ma cosa c'entra adesso? Facciamo cosa chiudere tutto, pronti a denunziare qualunque cosa, guarda. Vabbè, vi informerò più avanti sul colpo apoplettico che ha preso ieri Parenzo, che sembrava pronto a denunziare tutti per una vecchia causa. Di 15.000 euro, va benissimo, non siamo noi che parlano di omosessuali. Sentite le critiche fatte a Rosy Bindi a una festa dell'Unità, una festa del Partito Democratico, contestata da un gruppo di omosessuali, perché a un certo punto ha detto no, ma la Costituzione, c'è una pronuncia della Corte Costituzionale che non si può parlare di matrimonio. Sentite, c'è un'interpretazione della Corte Costituzionale su questo punto che esplicitamente parla. Ma che stai dicendo? Esplicitamente scritto nella recente lo vedete, perché non otterrete mai niente in questo paese. Eh no, non è stata una notte tranquilla, quella per Rosy Bindi. Sentite altre proteste, altre critiche. I vescovi rimpiangono i dico e voi rimpiangerete le unioni civili se andate avanti con queste posizioni massimaliste. Ma quali posizioni massimaliste? Lo diciamo noi dalla Zanzara, non c'è nessuna posizione massimalista, matrimonio niente, e chiudiamo qui. Voglio far risentire ieri la Santanchè, le intercettazioni come il cancro, una frase brevissima, molto breve. Le intercettazioni sono un po' come il cancro. Cioè, finché uno di noi non prova che cos'è il cancro, non capisce la devastazione della malattia e la sofferenza. Le intercettazioni, fin quando non toccano te stesso, ma toccano gli altri, magari pensi che possa essere. E va bene, oppure male. Doris, male. È tornato anche Ennio Doris a parlare, grande amico di Berlusconi, naturalmente dice che c'è bisogno della presenza di Berlusconi. Quello della banca disegnata intorno a sé. Sì, quello che fa il cerchio, no? Signor Doris. Il cerchio magico. Sentiamo. Io in questo caso mi sentirei di dirgli c'è troppo bisogno e quindi, così come gli ho detto, per un periodo fatti da parte, adesso c'è troppo bisogno della sua presenza, perché è molto importante avere l'adesione della gente. Signor Lombardo, torna a parlare anche il signor Lombardo, governatore della Sicilia. Più che parlare dovrebbe dimettersi, comunque andiamo avanti. Ha già promesso le dimissioni. Quanto ci vuole? Ma no, ma il 31, ha detto che si dimette il 31 di luglio. 110 nomine in 80 giorni. Hai capito. Lui dice naturalmente che erano dovute, ma è sempre tutto dovuto in Sicilia. C'è sempre un cavillo cui appigliarsi, una leggina, una sentenza, persino addirittura un ricorso. pensa Parenzo che ha nominato un consulente per... cerca di capire perché non ci sono riuscito. Un ha consulente? Nominato, aspetta, un consulente per il monitoraggio delle iniziative e dei processi organizzativi e procedurali correlati ai rapporti istituzionali con gli organi della regione e dello Stato. Ha nominato un consulente per il monitoraggio delle iniziative e dei processi organizzativi e procedurali correlati ai rapporti istituzionali, sì, con gli organi della regione e dello Stato. Vabbè, è chiaro, mi pare evidente. Ma vi rendete conto o no? Vi rendete conto di quello che avviene in Sicilia? È tutto inutile, le elezioni sono inutili. Bisogna nominare un commissario straordinario per 5 anni e mettere a posto i conti. Elezioni no, elezioni inutili in Sicilia, inutili. Lombardo che dice, vi ricordate la proposta di Borghezio di vendere la Sicilia agli Stati Uniti? Sentite cosa dice Lombardo. Rimando al mittente le preoccupazioni di certi governatori che si chiamano Zaia piuttosto che Cota, che della loro solidarietà non abbiamo bisogno. E al mio ex collega Borghezio dico che se lui riuscisse in questa missione storica di sganciare la Sicilia ci farebbe un grandissimo favore. Cominceremmo a trattenere i 10 miliardi di euro che lo Stato si becca anno per anno per la raffinazione della benzina. Questa storia della benzina, poi non ne posso più di questa vicenda della benzina, che viene usata in maniera strumentale da qualsiasi politico siciliano. Ma c'è. Per dire che è lo Stato, in realtà, che è lo Stato che deve i soldi alla Sicilia, no? Roba da matte. La notizia di oggi è sul Corriere.it. Sì, qual è? E dice che Nicole Minetti è stata premiata da Cruciani. Quindi non so cosa tu hai combinato, guarda. Ma... No, guarda, è stata premiata da colui che fa quei famosi braccialetti. Adesso, senza fare pubblicità. Da Cruciani. Sei dietro tu questa cosa, guarda. Ma quale dietro io? Ma che stai sicuro, dicendo? Assolutamente. Ho colpito ancora il signor Cruciani. Comunque, andiamo avanti. Allora, diatriba ormai arrivata allo zenith, diciamo così, tra Bossi e Maroni. Maroni che dice, signor Maroni, che ha detto la presidenza di Bossi è un ruolo affettivo, non ha nessun potere, il riconoscimento concesso alla sua storia personale, e invece Bossi che insiste, non rispondo, ma il capo sono io, e addirittura paragona Maroni a un cane. Ci sono tanti cani piccoli che abbaiano molto ma non fanno paura. Sentiamo una fedelissima di Bossi, la senatrice o deputata, non mi ricordo cosa, Paola Goisis. Ottimo. Sentiamo. Sento cosa ha detto Maroni, che lei non ha più potere nella Lega. È vero oppure sente di contare ancora? Bossi è il capo, l'unico capo che c'è. L'unico. Volete sentire qualcosa di Dell'Utri di ieri sera? Beh, cari certo, ascoltatori della Zanzara. Dell'Utri, la trattativa con la mafia in alcuni casi si può anche fare, senti. Se si è trattato per cercare di evitare guai peggiori, può darsi che sia stata una cosa giusta, però non è una cosa che mi sento di commentare, perché non lo so, la mafia non si può trattare con la mafia, come si fa? Da una parte dice che in alcuni casi si può trattare, poi a un certo punto dice come si fa a trattare con la mafia. Certo. Poi che volete, un altro Dell'Utri? Abbiamo la risata di Dell'Utri, bellissima. La risata, sì, prima la risata. Questa è tra il luciferino e l'autorevole, diciamo, la risata. Dai, autorevole e luciferina. Io ho paura a commentare la risata di Dell'Utri. Ingroia come Khomeini. Non so come dire, è proprio un fanatico, è un ayatollah, non lo vede anche com'è fisicamente, sembra un ayatollah, sì, se si mette il caftano è perfetto. Questo come sua forma mentis. E poi la cosa meravigliosa, sono un barbone, lo stipendio del Senato non è un granché. Dico come un barbone, no, lo stipendio da parlamentare che poi tutti fanno chissà che non è un granché. E io ho 4 figli, insomma, ho il livello di vita, non è che poi faccio chissà che cosa, però si spende la casa qua, la casa là, destra e sinistra. Ma poi che cazzo ve ne frega, scusate, mi fate tutte queste domande. Eh? Questa era la Santanchè, però, eh? Questa è la risata della Santanchè. No, ma scusami, adesso io riascoltando, perché ieri poi in diretta alcune cose sfuggono, ma Dell'Utri. Sì, sì. Ma come fa a dire che ci dice ha quattro figli, una casa qua e una casa là? Ma c'ha i mutui, ha pagato mutui a tutti i figli. Dire, lei ha qualche mutuo? Panni... Onorevole Speroni, buonasera. Lei ha qualche mutuo da qualche parte? Che no, è successo? Non c'è, ma anche perché la casa l'ho comprata tanti anni fa, quindi... Non ho mutui da pagare. Bravo, Francesco. Non ha mutui, beato lei. Francesco Enrico Speroni, eurodeputato della Lega Nord. Senta, ormai tra Bossi e Maroni siamo agli stracci qua, eh? Non mi sembra, perché io non ho sentito quelle dichiarazioni, quindi non so neanche se siano vere o meno. Come? Beh, come non sono vere? Sono verissime. Cioè, una è un'intervista rilasciata a un giornale da parte di Maroni, 7 del Corriere della Sera. Un'altra è un'intervista realizzata oggi a Bossi. Ormai credo solo ai filmati. Cioè, quando sento una persona che dice una cosa, ci credo. Le cose riportate dagli organi di informazione, c'ho sempre i miei dubbi. Però, scusi, Speroni, questa volta nessuno ha smentito. Cioè, Maroni ha detto effettivamente che la presidenza di Bossi è un ruolo affettivo, ma ha fatto bene a dirlo? È effettivamente così, sì o no? Allora, basta leggere lo statuto della Lega che c'è in internet. Sì. Presidente della Lega, se uno vuole vedere effettivamente quali sono i poteri di Bossi, lo va a vedere lì. Ma ce l'ha ancora qualche potere o no? Ce l'ha ancora qualche potere? Allora, è membro del Consiglio federale... È membro della segreteria politica, quindi qualche potere ce l'ha. Certo, non è più segretario come era prima. E questo, siamo a Monsieur Lapalisse. Però voglio dire, quando Maroni dice che ha un ruolo solamente affettivo, non ha nessun potere, è il riconoscimento concesso alla sua storia personale, significa che, come dire, lo sa quando uno scalda una sedia, sta lì e c'è una poltrona onorifica, si fa vedere ogni tanto e poi non conta un cazzo, diciamo la verità. Faccio l'interprete di Maroni o di altri, se vuole la mia opinione la dico, ma cosa pensa Maroni e qual è l'interpretazione di quello che ha detto, quello che pensa Maroni lo si chiede a Maroni. No, d'accordo, però ha sbagliato a dire che è un ruolo solo affettivo? Diciamo dal punto di vista tecnico, ripeto, guardiamo lo statuto e vediamo quali sono gli effettivi poteri o non poteri di Umberto. Sì, ma quando Maroni dice che ha un ruolo affettivo, sbaglia o no? Ma un ruolo affettivo... Di sicuro ce l'ha, ma Maroni non ha detto che ha solo un ruolo affettivo. Beh, sì. Beh, sì. Ha detto che non ha nessun potere, questo ha detto. Ha un ruolo affettivo, non ha nessun potere. Punto. Allora, se fa parte del Consiglio federale vuol dire che il Consiglio federale vota. Poi, se sia un grande potere o non un grande potere, come dire, un membro del Parlamento non ha poteri o ce li ha? Sì, beh, no, però Speroni, non restiamo alle cose formali. Lei è una persona intelligente, non è un... Però io queste cose preferisco essere formale proprio per non essere frainteso. No, ma lei in questo caso non è frainteso perché non è un'intervista, è un'intervista con la voce, lei lo sa. No, qui alla radio nessuno può essere frainteso. Dunque, oggettivamente, Bossi, che poteri ha? A me, allora, ripeto, fa parte della segreteria politica, parte del Consiglio federale. Quando si vota... Ha diritto di voto, ad esempio, a differenza di me, che faccio parte senza diritto di voto. Ma è ancora il capo? Per lei è ancora il capo, sì o no? Allora, secondo lo statuto, il capo della Lega è il segretario, quindi non è certo un... Ma per lei, che ha sempre considerato Bossi il capo, è ancora il capo, sì o no? Ma non può essere il capo dopo un congresso che ha stabilito che il capo è qualcun altro. Dunque il capo è Maroni. È Maroni, Il capo è Maroni, questo sì. E iniziamo a prendere in giro Feltri, eh? Beh, non si è dimessa la Minetti, caro Vittorio. Certo. Ti stimiamo, naturalmente, come sai, però, insomma, sentiamo cosa hai detto, eh? Comunque lei si dimette, questo lo so con certezza. Cioè, lo so assolutamente. Cioè, fonte diretta, non ti posso dire chi, ma lo puoi immaginare, so che lei praticamente si è già dimessa. Ma cioè, io su questo faccio... faccio anche delle scommesse, nel senso che la persona che mi ha dato la notizia è degna di fede, perché non di Emilio, quindi non, anche per questo che io non gliel'ho chiesto, perché so che è così. E se non sarà così, lunedì mi vi autorizzo a prendermi in giro per 40 minuti sulla Zanzara. Certo che c'è. Suona il telefono della Zanzara. Il telefono della Zanzara che suona. Sono Feltri? No. No? No, non è Feltri. Mistero alla Zanzara. Di chi sarà il telefono che squilla? Forse è il mio, aspetta, il mio squilla. No, non è il tuo, sei collegato. Sei collegato, non è il tuo. Ah, scusa, sono abbastanza stordito. Speroni, che ci facciamo con la Sicilia? Ma, Sicilia, secondo la Costituzione, è una regione a statuto speciale. E fino a questo ci siamo. Ma scusi, ma perché ci devi dire delle ovvietà pazzesche? Scusi. Le cose ne mangiano così come sono. Scusi Speroni, però adesso noi l'abbiamo chiamata, però non è che ci ha detto, la prima cosa che ci ha detto è che Bossi è presidente, andatevi a guardare lo statuto, e il problema non è quello, non è lo statuto, è che ormai insomma all'uomo dispiace perdere potere, mi sembra evidente dalle cose che dice, e Maroni tende invece a sottolineare che tutto il potere è suo. Prima cosa. Seconda cosa, la Sicilia che dobbiamo fare, ci dice la Costituzione, dice che è una regione a statuto speciale, ma questo lo sapevamo. Allora, ripeto, o si cambia la Costituzione o le cose rimangono così come sono. Ho capito. Esatto. Ma lei cosa farebbe con la Sicilia? Speroni, se potesse decidere con la Sicilia, cosa farebbe? Ma a me, sinceramente, cosa fare con la Padania? Nel senso, me ne andrei via dall'Italia e quindi anche dalla Sicilia. Ma che significa? Che sia, vabbè, se fosse possibile, lei farebbe la famosa secessione, no? E questo lo sappiamo. Però? Ma si può vendere? No, vabbè. Vendere? Scusa, Facci, che vuoi dire? No, no, chiedevo a parenti. Io so che vendevano le isole, c'era tutto un mercato nei Caraibi per cui si compravano, si vendevano le isole, però non credo che sia permesso qua nel Mediterraneo. Però sai che era un'idea di Borghezio questa qua? Per carità, sì. Si può avere la stessa idea di Borghezio senza offendersi, senza che la cosa possa essere offensiva. Però Borghezio a un certo punto aveva detto vendiamo la Sicilia al primo offerente, che ne so, agli Stati Uniti, a qualcuno che se la compra, magari la risolleva dal punto di vista economico, no? Tu vorresti venderla, insomma, vendiamo. No, non ho detto che la vorrei vendere, ho detto che, voglio dire, in questa fase, come dire, particolare, di questa congiuntura particolare in cui tutto viene visto in termini di spreco, di sì, prezzo, di spread, io penso che uno dei governi, cioè insomma uno dei prossimi provvedimenti del governo Monti potrebbe anche essere, voglio dire, rimettere il patrimonio pubblico in vendita, e quindi anche la Sicilia, voglio dire, tutto ciò che rappresenta, anche se c'è un ma, che è il fatto che insomma la Sicilia è sempre tra le scatole anche in termini politici, perché alla fine siamo sempre lì che parliamo della Sicilia, perché che fallisca, che non fallisca, Palermo e il default e Ingroia e le indagini, e per cui alla fine c'è questo il centro del mondo, il centro del eccolo, mondo, sì, ecco, diciamo il centro, il buco di che cosa, però appunto, insomma, c'è sempre questa cosa. Ma tu lo sai che in Sicilia Lombardo ha nominato un consulente per il monitoraggio delle iniziative e dei processi organizzativi e procedurali correlati ai rapporti istituzionali con gli organi della regione e dello Stato. Ripeto, consulente per il monitoraggio delle iniziative e dei processi organizzativi e procedurali correlati ai rapporti istituzionali con gli organi della regione e dello Stato. Ora io dico una cosa, secondo me è irriformabile la Sicilia. Ma io insisto, tu sai che c'è il contributo sepoltura per i consiglieri regionali, tu sai che hanno fatto un'assicurazione contro le insurrezioni estesa ai familiari? Come le sai tutte queste cose? Sai, ho fatto a tratti il giornalista, ne ho scritto qualcosa, e questi sono anche tanti di alcuni aspetti, anche se la cosa che mi ha colpito di più della Sicilia è una cosa che mi hanno raccontato l'altro giorno, che c'era a Palermo, che c'era, hanno visto proprio Ingroia a Ballarò, nel senso il mercatino lì che era lì con a una bancarella che comprava non si sa bene, una camicia o qualcosa. Vabbè, normale questo. E discute, no, no, ma nel senso che discuteva lì un quarto d'ora, 20 minuti a discutere, no? A guardare sul prezzo, insomma, hai capito cosa stava facendo, giusto? No. Come no? Insomma, cosa faceva? Era lì che parlava del prezzo della camicia, hai capito cosa stavano facendo, no? No. La trattativa era quella di Ingroia, era per il prezzo della camicia al mercato Ballarò. Speroni, lei che farebbe con la Sicilia? La venderebbe? È possibile vendere la Sicilia? Ma penso che non si possa vendere, nel senso, se uno vuol vendere dei terreni, degli immobili comunque in Sicilia, penso che lo possa fare. Sì. Però, ripeto, vendere la Sicilia nel senso di staccarla dall'Italia bisogna cambiare la Costituzione, non mi sembra che ci sia una volontà in questo senso. Sì. Dunque? Quindi, dunque, se non si può fare, è inutile pensare alle cose che non si possono fare. Si risolve il problema? E come si risolve il problema del default, dei debiti, eccetera? Il problema del default si dovrebbe risolvere, come adesso sta chiedendo la Baviera riguardo ai lender dell'est della Germania, cioè ognuno si paga i debiti suoi e non rompe più le scatole a quegli altri. Poi Lombardo ha detto che la Sicilia non è in default, che i soldi ce li ha, vabbè, allora meglio così. Lo sa come... Era il vostro, volevate fare un'alleanza con Lombardo? No, l'hanno fatta l'alleanza, no, l'hanno fatta l'alleanza. L'alleanza l'abbiamo fatta. L'hanno fatta, Calderoli. Calderoli andò a Catania, in Pompa Magna, a brindare con Lombardo, ci sono ancora le foto di questa mega alleanza. Speroni. Certo che è stata fatta un'alleanza, a un certo punto poi le alleanze... si fanno, si sciolgono, ci sono quelle giuste e quelle sbagliate. Anche col diavolo, anche col diavolo si fanno, no? Questo lo diceva anche Miglio, no? Di avere il federalismo o addirittura la secessione, alleanza col diavolo. D'altro canto, anche gli Stati Uniti per sconfiggere Hitler si sono alleati con Stalin, che per loro era il diavolo. Scusi, mandi un messaggio. Io sono convinto che lei, questa sottolineatura continua di Maroni, che la Lega ormai è in mano mia, a lei un po' dà fastidio questa cosa. Dica qualcosa al signor Maroni. Non mi dà assolutamente fastidio. Voi sapete che sono abbastanza formalista, no? Pignolo, eccetera. Sì, no, quindi sappiamo, a un certo punto c'è lo statuto che dà certi poteri a Maroni, e se Maroni dice io ho poteri che mi danno lo statuto. Ma il problema non è lo statuto, è una questione di seppellire una volta per tutti i Bossi, seppellire in senso metaforico. Ma vuole seppellire Bossi? Allora, l'altro giorno era da solo, Speroni era da solo l'altro giorno a una cena. Guarda, là. Adesso sto andando proprio a Trescore Balneario, mi farò raccontare da quelli che c'erano lì com'è andata, per cui aspetto fra un'oretta, traffico permettendo, saprò esattamente quello che è successo. Devo dare la linea al giornale per quanto riguarda? Che è stato seppellito, se vogliamo usare questo termine ovviamente politicamente, è stata Rosy Mauro che per la Lega è seppellita. Ma qualcuno dice che sia una scoreggia nello spazio il movimento che hanno fatto? Qualcuno dice nella Lega? Questo è un altro discorso. Io sto dicendo che nella Lega è stata seppellita Rosy Mauro. Non c'è più e non ha nessun potere. Siamo qui, Zanzara, parti di questa sera 19:17, caro Parenzo, in collegamento da Roma, 800 24 00 24. Subito un ascoltatore, voglio battaglia, ascoltatori, tanti Andrea saluti, da Milano. Tanti saluti, grazie. Ma grazie. Tanti saluti de che? Nicolò da Milano. Sì, buonasera. Io volevo intervenire sul caso Minetti, poi volevo collegarmi anche alla questione Sicilia. Volevo dire, ma siamo sicuri? Siamo proprio sicuri? Ma chi è che sta ridendo così? Chi è? David? Chi è che ride così? Sì? Chi è che ride così? Pronto? Questa è la risata di Facci? È Facci, sì, esatto. Filippo Facci. No, mandiamola in loop, la risata di Filippo Facci, assieme a quella di Dell'Utri. Un mito, una leggenda. Filippo, sai che considero sempre la puntata d'Agostino Toscani come il top del top, sì. Vabbè, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Caos a Damasco, i blindati di Assad attaccano, i ribelli assaltano la sede della polizia, nuovo veto di Russia e Cina alla risoluzione ONU sulla crisi siriana. Senza l'Europa non avremo soldi per pagare gli stipendi e servizi, drammatico allarme del governo spagnolo, ma nel paese cresce la protesta contro i tagli. All'Italia il record delle tasse, 55%, ma anche della ricchezza sommersa e l'evasione fiscale, Confindustria allarme spread. 20 anni della strage di Via D'Amelio, Napolitano fare piena verità anche sulle turbide ipotesi di trattativa Stato-mafia, la protesta delle agende rosse, duro botto e risposta tra Bossi e Maroni, l'ex leader, il capo resto io, i cani piccoli abbaiano ma non fanno paura, la replica a caso chiuso, ha deciso il congresso. In arrivo alla Regione Sicilia, 400 milioni per evitare il crack, viaggio del TG3 tra gli enti inutili, un'agenzia creata 6 anni fa e mai aperta. Rossella Uru arriverà tra poco all'aeroporto di Ciampino ad aspettarla i genitori e il premier Monti, la festa del paese natale in Sardegna. Il colpo apoplettico che ha preso Parenzo ieri sera, il colpo al cuore. Arriva nel pomeriggio una mail a Parenzo da parte dell'avvocato di Sgarbi in cui si intima a Parenzo di versare il 50% di una condanna a 30.000 euro ricevuta da Sgarbi. Sentite Parenzo. La notizia è questa: è stato condannato il signor Sgarbi a pagare 30.000 euro e vuole i soldi pure da Parenzo. Questa è la realtà. Ma io, guarda, non commento nulla di tutto questo, non so niente e non commento nulla di tutto questo. No, ma lui dice che non puoi commentare. La notizia non c'è è questa: è un cazzo da ridere. Io non commento niente di tutta questa vicenda. Quindi. E prosegue arrabbiatissimo, ma sul serio, non faceva finta. Nulla risulta a Telelombardia, tutt'altro, e quindi io non ho nulla da commentare, sono molto serio, non c'è nulla da dire. No, ma ho capito, però qua c'è un dispositivo di una sentenza. Non c'è un cazzo qui, nulla. No, c'è qualcosa. Io non mi risulta niente di tutto questo. Se una persona è stata condannata, lui, sono fatti suoi. Interviene Sgarbi. Certamente, però lui era lì. Dunque qualcosa deve pagare, dici tu, no? Io credo, non mi ha smentito, mi pare. Poi se anche mi ha smentito non doveva invitarmi, è stato imprudente. Se non volete guai non invitate Sgarbi, anche noi abbiamo passato appunto. No, giusto? Appunto, sì. A tanti anni di distanza sta compiendo un'altra diffamazione aggravata che registro, perché... Ma registro non c'è bisogno perché è già registrato. Quale sarebbe la diffamazione? Perché io non devo leggere il dispositivo di quella sentenza dove si parla semplicemente di una condanna di Sgarbi, fine. Poi dice: non parlo più con Sgarbi. Parenzo, no, ma io non parlo né con Sgarbi né con Cicconi. No, ma aspetta. No, aspetta, saluto, un secondo. Non parlo né con Sgarbi né con Cicconi. Vuoi aspettare un secondo? Vabbè, ma è completamente pazzo. Sentiamo Sgarbi, gli pazzo, farei pagare tutto. È impazzito Parenzo. È impazzito Parenzo. Lui è doppiamente responsabile perché mi incitava. Rideva, era complice. Mentre dicevi delle cose gravissime su Caselli, delle cose. Pensava quelle cose gravissime, ma ne era compiaciuto, quindi ancora peggio, perché se l'avesse pensate potrebbe essere anche. Ritorna in onda Parenzo: ho dato tutto in mano ai miei avvocati. Non ho sentito cosa dice l'avvocato Cicconi, dico semplicemente questo: che ho ricevuto oggi una strana lettera per interposta persona. Da questo avvocato Cicconi, perché è benissimo, che mi ha mandato una lettera a un'altra persona che me l'ha girata a me, una strana notificazione di una con richieste. E allora? Io ho preso questa lettera e l'ho messa in mano a un gruppo di avvocati. Gruppo addirittura? Due avvocati che se ne stanno occupando direttamente. Alla fine tutto viene svelato, era uno scherzo. È tutto in mano nei Ma miei è avvocati. Uno scherzo, cretino! E da oggi pomeriggio siamo d'accordo tutti! La mail è finta, Sgarbi sa tutto, Cicconi è complice! Cicconi è complice! Abbraccia allora, tutti, caro Parenzo, allora, abbraccia allora tutti! Allora posso dirti che hai confermato, quelli che chiamano e dicono che sei un coglione e tu hanno ragione! Ma questa che è la risata di Sgarbi finale? Chi è? No, questo è dell'Utri. Ah, è dell'Utri. Bene, 800-24-0024 a grande richiesta perché molti non avevano ascoltato le tue performance di ieri sera. Siamo qui allora, Rosario da Catania. Sì, ciao a tutti. Dica. Ho sentito poco fa una parola, una frase che riguarda la nostra terra, la nostra Sicilia. Sì. Io non voglio fare la guerra dei poveri fra chi è più bravo, chi è meno bravo e quant'altro, ma sì, il rating della Sicilia è dato A2, mentre il rating del Piemonte è dato BB2. Sì, il come rating, Come si diceva che addirittura... Ma chi se ne frega del rating? No, ma sono importanti, come si parla qua dei nostri soldi, che noi siamo spreconi, che abbiamo fatto... Ah no, non è vero che la Sicilia spreca no, soldi, no. Volte. Ti spiego perché, se tu hai bontà di ascoltarmi te lo dico. Nessuno spreco, in Sicilia non ci noi sono siamo, sprechi. Sì, no, ti spiego subito, noi avevamo un deficit della sulla. No, guardi, a me i tecnicismi, abbiamo ridotto del 14% la spesa farmaceutica, abbiamo ridotto la mobilità passiva di quasi il 10%. Ma no, guardi. E allora? Il personale arrivò per 5,8. Sì. E allora ti sto dicendo che se avevamo un bilancio nel 2008 di 20 sì. miliardi, oggi ce l'abbiamo di 15. Quindi sì. abbiamo ridotto anche la spesa. Ma lei che cos'è? Il portavoce di Lombardo? Lei è portavoce di Lombardo? Sono portavoce, sono un siciliano indignato sì. che ha ascoltato delle fesserie. Ma non c'è nessuna fesseria, lei può leggere i dati, lei può leggere dei dati. Lei deve essere indignato per gli sprechi della regione Sicilia che avete fatto fare alla classe politica che da 30 anni governa la vostra regione. I primi responsabili siete voi, cari amici siculi, siete voi. Non ho capito, scusa, cos'è la questione? Non l'ho capito. Scusi, caro Rosario, il punto è questo: sì. lei ce la può intortare come vuole, il rating. No, aspetti un attimo, quello che è cambiato negli ultimi anni, i dati che sono leggermente cambiati in alcuni settori va benissimo. Restano alcune cifre che sono chiarissime, anche perché lo dice lo stesso governatore, che ci sono troppi assunti, che ci sono sprechi, eccetera. Non è che non lo dice, lo dice pure lui. Lui dice però di essere il meno colpevole di tutti. Allora, caro Rosario, le chiacchiere stanno a zero. Se fosse un'azienda normale, la Sicilia prenderebbe i libri in tribunale e verrebbe dichiarata fallita e invece ogni volta è lo Stato che ripiana i debiti e ogni volta paga pantalone. Ha capito, sì o no? Il governo nazionale ha detto che non è così. Vabbè, non è così. Tutto ciò che è stato detto. Vabbè, e io lo le dico tutte le riforme sì. che sono state fatte in Sicilia sì. le ATI, avevamo 11 ATI, ne sono state fatte una sola, ce n'è in questo momento è stata rifatta una. La stessa discorso sulla sanità, la stessa discorso fatto sugli altri rifiuti. Quindi ci sono situazioni che non è che non sono state cambiate, sono state modificate totalmente. Benissimo, chiaro, grazie. Giorgio da Padova, buonasera. Buonasera, buonasera dottor Cruciani, buonasera dottor Parenzo. Dica. Chiamo da Padova e volevo invitarvi, se posso, al Pride Village, sì. Che è un festival gay ma aperto a tutta la cittadinanza, che si tiene alla Fiera di Padova ed è già in corso che per tutto agosto. Caro Giorgio, noi come sa siamo ormai gay friendly, siamo grandi sostenitori del. Sarebbe bello venirti apposta. Lo so, vediamo quello che possiamo fare. Parenzo è di Padova, non so se sia mai passato al gay village di Padova. No, ieri ero a Padova, però hai avuto altro da fare, come si è sentito? Miei genitori e quindi non niente avevo... Ma per carità, se passiamo da Padova molto volentieri verremo al gay village di Padova, ma come no, vi siamo vicini in tutte le battaglie. È in fiera a Padova ed è una bella situazione, è aperta a tutti. Beh, certo che è aperta a tutti, ma come anche a Rosy Bindi? Anche alla signora Bindi? Beh, le porte sono aperte, ma perché no? No? Perché no? Che ne so. Guardi, senta cosa è accaduto ieri alla festa del Partito Democratico a Roma. È stata fortemente rimproverata, per usare un eufemismo, da alcuni militanti. Senta. C'è un'interpretazione della Corte Costituzionale su questo punto che esplicitamente parla... Ma che stai dicendo? Esplicitamente scritto nella recente. E va bene, questa era la Bindi. Simone sempre da Padova. Buonasera. Vada veloce. Niente, io volevo contestare quello che lei diceva prima, che la Sicilia deve essere. Non devono esserci le elezioni in Sicilia, ma deve essere commissariata. Sì, esattamente. No, secondo me la soluzione per una regione non può essere questa, perché sennò andiamo a delegittimare quello che è un governo di una regione e di uno Perché fino adesso non è delegittimato dalle cifre chiare e lampanti del dissesto della finanza pubblica. No, non è già delegittimato di per sé il governo della Sicilia. Cosa può fare un altro governo, se non mantenere lo status quo? Un'altra amministrazione. L'unico sistema per far sì che una regione sia costretta ad arrangiarsi è che lo Stato smetta di pagare i debiti della regione. Gentilini, andiamo con la Sant'Anchè, che è la new entry. Ma la numero uno resta sempre Assunta, la mitica Assunta, la risata prolungata dell'almirante. Siamo qui, la Zanzara riprende su Radio 24 800 24 00 24 con Davide Parenzo in collegamento da Roma e tutta la nostra band. tutta la nostra band. Fai una sorta di giro d'Italia, vai, un giro d'Italia da Padova a Roma, continuamente in treno, a contatto col popolo, con la gente. Sì, per questo, in questo grande viaggio per l'Italia, nel raccontarti. Ma quale grande viaggio? Ma quale rumori, passioni di un paese che vuole cambiare, di un paese che non vuole più sentire i mostri che lei costantemente invita. Ad esempio, bisogna annunciavolo alla Zanzara. Da oggi noi inviteremo soltanto il paese reale, cioè professori universitari, Umberto Eco, precari, che operai. Sai che palle, sai che palle. Come che palle? Racconteremo il paese vero, il paese reale, non tutti questi politicanti. Dell'Utri di ieri sera, sono il più grande mutuato d'Italia. 20 milioni, ecco, non sono tutto nulla. Esatto. Sentiamo. I miei sono tanti, No, non sono niente, perché quando io cioè, intanto pagare tutti i debiti, io avevo molti mutui, sono il più grande mutuato d'Italia. Ho fatto i mutui per fare i lavori, per mantenere la famiglia, per comprare cose che mi piacciono, come per esempio molti spesi nei libri, sono i debiti e poi decidevo campare. Io non ho già altri stipendi, non ho più niente, da quando ho lasciato l'azienda. Eccoci qui. Andiamo a Ravenna, signor Null. Chi è? No, dico è agghiacciante, ripensando quello che ha detto. È agghiacciante, ognuno ha una, come dire, un'idea dei soldi, il proprio tenore di vita, no? No, troppi capito, paletti. No. Per lui 20 milioni di euro non sono niente, perché ha dovuto pagare i mutui, i soldi ai figli, eccetera. Ma è tutti quei milioni di italiani che hanno quattro figli. Ma non è che lui precari. Si mette dalla parte dei milioni di italiani. A un certo punto ci vuole un po' di empatia, dovrebbe invece da politico, dalla pensione del popolo, sì, dire queste cose alla radio, così, sì, perché ho comprato libri, case, io ho tenore. Senti Giovanardi come alto. Pronuncia Elton John, Senti Giovanardi. Il mio spazio sotto il salice, non stare lì così. Pronto. Facciamo un caso famoso, Elton Jones. John, ha messo al mondo John, un bambino che ha 5 genitori, sì. 5, sì. Perché da uno hanno comprato il seme selezionato, sì. Deve essere alto, bianco, quoziente di intelligenza superiore. Sì. Da una studentessa hanno preso a pagamento, perché sì. Ci sono agenzie specializzate che danno a pagamento. Guardi che c'è poco da ridere. Beh, facciamo un caso famoso, Elton Jones. Ridevano per Elton Jones, non è che ridevano per altre cose. Elton Jones, rimettimelo un po'. Facciamo un caso famoso, Elton Jones. Giovanardi, Marino, provincia di Trapani, buonasera. Buonasera, vengo subito, Crociani, ti servo subito, non ti preoccupare. Ti servo subito, non ti preoccupare. E allora? La Sicilia, io innanzitutto, prima che voi mi prendete in conto fiete, sono indignato dei politici siciliani. Punto e basta. Vabbè. Ma non è che in Sicilia ci sono solo i politici siciliani, non è che ci sono solo i forestali, c'è gente che si spacca il fondoschiena dalla mattina alla sera. Ma nessuno l'ha messo in dubbio questo, Oh, e allora, ironicamente, io venderei, siccome lei parlava di vendere la Sicilia. Sì. Ma la Sicilia quante volte la devono vendere? I politici siciliani l'hanno venduta alla mafia, l'hanno venduta a Roma, l'hanno venduta dappertutto. Sì. Perché dalla prima Repubblica ad arrivare fino ad oggi. Vabbè, ma nessuno, io non ho mai detto che bisogna vendere la Sicilia, lo diceva Borghezio questo qua. Ah, Borghezio? Sì, Borghezio. Borghezio si deve leccare l'uccellino come le cacche. Stai tranquillo, signor Marino, stia tranquillo, signor Abbiamo Marino. Abbiamo aperto le gabbie, Poi, Borghezio, mi fa pena, quando lo sento sinceramente, quando parla mi fa pena. Le fa pena, perché vabbè. Fa discorsi sempre, non lo so, ma è proprio, ma va comunque, non lo so. Non lo so. No. Ma com'è che a un certo punto, com'è che ha detto? Parlare. Sì, Marino. Vorrei dire parolacce, però mi limito. No, ma lei non deve dire parolacce. Un attimo solo. Com'è che ha detto ma ieri? Ma cioè, non ne dico. Com'è che dico. Ha detto a un certo punto dell'Utri ieri? È ancora a casa, ha capito, Marino? È ancora a casa. E allora, sì, e infatti lei doveva dire a dell'Utri, perché dell'Utri io lo conosco, perché io ho giocato a calcio e dell'Utri era allenatore della Bacigalupo. Sì, allora. E allora dalla Bacigalupo allenatore, come è arrivato a lui, lei deve fare queste domande. Sì, vabbè, così facciamo notte come, poi. Come, come, com'è arrivato a questo punto? Che così facciamo notte se gli chiedo questo, va. Com'è che è arrivato no. l'allenatore della Bacigalupo a Berlusconi? Così facciamo notte con Dell'Utri. No, lo so. Stato aspetti un attimo, aspetti. Mancano di tutti, sappiamo. Aspetti. E ci sono venduti qualcuno in Bocciallina, ancora dobbiamo sapere la verità. Va bene, un attimo solo. Sei ancora a casa, Simo. Gabriele da Brescia, grazie. Ancora a casa, Simo. Gabriele, dica. Sì, ecco, io non una felicità chiamarvi, io posso fare una telefonata al mese perché io telefono dal manicomio criminale di Brescia. Sì. E praticamente che succede? Che per noi qua è una tristezza qua al manicomio, perché nel Monti non ci fa ride, e invece Berlusconi ci faceva un sacco di grasse risate, noi si ammazzavamo tutte le risate, noi rivolemo Berlusconi che ci racconta, ma no, quando raccontava le barzellette che dicevano che erano barzellette, quando faceva finta che erano vere, ha capito? Quelle ci faceva ammazzare le risate qua al manicomio. E noi volevamo fare pure una petizione per tutti quanti, sì, e per tutti quelli che vogliono vedere Berlusconi quando ritornerà, che ci farà fare un sacco di grasse risate tutti, sì, a quanti, e che venissero tutti qua al manicomio, capito? Così non mi potete manco mandare all'ambulanza, perché io praticamente sono matto di mio, capito? Sì, è matto, e dunque vuole che Berlusconi torni in politica per divertirsi. Ma mica solo lui raccontava le barzellette, pure Coso lo raccontava. Chi? Castelli. Castelli non mi pare, non mi pare un barzellettiere. Come, quando ha raccontato che è stato violentato da una donna, non va a ricordare quella barzelletta? Ma non me lo ricordo io, francamente, Gabriele. E quando aveva detto che era povero, ma questo sono tutti un sacco di barzellette che a noi ci facevano ammazzare alle risate. Pure Tremonti, quando pagava 4.500 euro di soldi neri, dopo che noi non potevamo manco andare a ritrarre i soldi nostri alla banca, ha capito? Questo pagava 4.000. Ma queste sono tutte barzellette che non capisco perché... Insomma, lei mancano molto questi barzellettieri. Lei non capisce perché la gente non li vuole più votare. Sì, ma perché non capiscono le barzellette. Solo noi qua al manicomio le potremmo capire queste barzellette qua, capito? Va bene, Gabriele. Ma Dell'Utri che ha detto ieri sera a un certo punto? Non mi ricordo. Aspetta. È ancora a casa, Simo. Ha capito, ma Gabriele? Niente. Silvio da Vicenza. Silvio. Pronto, buonasera. Dica. Io volevo seguire la sua ragionamento di prima, perché sono d'accordo sulla necessità di commissariare la Sicilia, sono anche d'accordo sulla idea che le elezioni non servirebbero a nulla perché creerebbero un doppione di un qualcosa che c'è già stato. Però inviterei a fare una riflessione di questo tipo clonandola anche sulla realtà italiana. Clonandola sulla realtà italiana, in realtà già un super commissario ci dovrebbe essere in Italia, c'è già. È vero, però anche lui... bisogna che si comporti come un commissario e non come, esatto, un politico, però. Cosa che non può fare perché evidentemente si trova in mezzo a una rete di veti incrociati che sono poi emanazione stessa della politica costituzionale, e quindi di fatto anche se volesse non potrebbe fare quello che lui sa sarebbe necessario, ma che evidentemente gli altri gli vietano. Quindi credo che le due cose siano abbastanza in parallelo. Comunque guardi Silvio, adesso non vogliamo gettare la croce addosso solo alla Sicilia, in realtà quello che fa acqua da tutte le parti sono le regioni italiane, cioè tutte le regioni italiane, chi più chi meno naturalmente, sono dei buchi pazzeschi di bilancio. Adesso non vogliamo gettare la croce addosso solo alla Sicilia, giusto, questo bisogna dirlo, però alcune cose macroscopiche che avvengono in terra sicula, e insomma questo è oggettivo, è oggettivo. 800 24 00 24, caro Parenzo, finalmente ti ho invitato una persona a modo. Chi abbiamo? Un fisico dell'università, chi abbiamo? Un operaio di Pomigliano. Ma quale operaio di Pomigliano? Dai, scusa. Bellissimo, finalmente, così parliamo di crisi, della questione della recessione. Ottimo, un operaio. Non è un operaio di Pomigliano. No. Fai un altro tentativo, su. Chi può essere? Può essere... Ah, Rita Levi Montalcini, ottimo. Ma che c'entra la Montalcini? Quella è stata evocata ieri da Dell'Utri. È stata evocata... Tra l'altro, mandiamo questa cosa di Dell'Utri di ieri su Rita Levi Montalcini. Comunque, non è lei che ha detto: io a un certo punto guadagno, al Senato non ci vado mai perché mi sono candidato solo per proteggermi dalla magistratura. Sentiamo. Vado quando ci va la Montalcini, non ci va mai neanche io. Quando serve ci vado, quando non serve è inutile andarci, perdere tempo. Ma io l'ho già detto perché sono là, l'ho detto chiaramente, per legittima difesa, punto, stop. questo è Dell'Utri, insomma non è ridale di Montalcini, Parenzo. Non è Rita Levi Montalcini? È il rettore della Bocconi, allora. No, non è il rettore della Bocconi. È con noi Massimo Ciancimino, buonasera. Buonasera, Cruciani. Come sta? Bene, bene. Senta, dove si trova? Come andiamo con la trattativa? A Palermo, per obbligo. non per scelta. Ah, per obbligo, è vero. Senta, lei, signor Ciancimino, come si definisce? Se lei dovrebbe, oggi, sì, l'autodefinizione di Massimo Ciancimino qual è? Pentito, no, pentito della procura, indagato. Come un pirla. Come un pirla. Perché un pirla? Perché? Perché basta vedere, leggere i giornali, basta vedere quello che sta succedendo. Si sta arrivando, credo che a giorni si arriverà alla richiesta di rinvio a giudizio di un processo che sì, tutto, dico quasi tutto, e sfido, io ho tutti gli atti depositati, sì, basato sulle mie dichiarazioni, dove io mi trovo sì, a fianco a 11 coindagati che di fatto sì, ho anche accusato. Per la storia di De Gennaro, inutile adesso entriamo nel dettaglio della vicenda. No. Il famoso papello. Ma perché pirla allora? Scusi, perché da una parte lei ha detto delle cose e dall'altra poi si è trovato indagato? No, perché fondamentalmente non mi viene neanche riconosciuto il ruolo di quello che ho fatto. Oggi mi ritrovo a essere indagato per calunnia in un processo dove le mie stesse dichiarazioni vengono usate per reggere tutta quella che è l'ossatura di questa delicata inchiesta. Una cosa pazzesca, dice lei, un paradosso. È un paradosso pazzesco. Ecco, ma che errori ha commesso? Mi dica, insomma, qualche stronzata l'ha detto, non vogliamo anticipare il giudizio, però qualche stronzata l'ha fatta, caro Ciancimino. Ma chi non fa le stronzate? Soltanto che la mia vita è dissezionata in quello che sono 8 anni di intercettazioni telefoniche, e siccome le mie intercettazioni telefoniche sono sempre pubbliche, anzi spesso vengono pure anticipate, ma quello tutti, montate ad hoc dai media, è chiaro che a nella mia vita succede. Normale io di stronzate ne ho fatto, ma non credo che insomma i pentiti che tanto vengono evocati anche dai nostri procuratori antimafia, che hanno l'onore pure di interrogarli, non hanno fatto stronzate, gente che ha ammazzato bambini negli acidi e gente che ha fatto stragi. Ecco, il più grave errore, il più di una persona dei dati dipende dalle stronzate che ha fatto. No, ma l'errore più grave che lei ha fatto qual è stato? Nascere, dicevano tanti. Beh, addirittura adesso nascere, dai, mica è così triste da pensare a cose gravi, Ciancimino. Ma fidarmi delle istituzioni, forse questo sì. Fidarsi delle istituzioni, cioè se tornasse indietro non lo farebbe più. No, devo dire veramente, amaramente, che se tornassi indietro quello che poi non è che ho fatto granché, Cruciani, io ho solo risposto alle domande dei magistrati. Non scordiamoci che oggi c'è tanta gente che dice: ho visto Salvatore piangere, mi ha raccontato che un uomo mi ha tradito, che hanno aspettato 20 anni. Anche quindi lei non si fida più dello Stato, hanno detto Ciancimino, che non erano maturi i tempi per poter dire delle cose. Da me si pretendeva tutto e subito. Cioè, tornasse indietro lei non direbbe tutto quello che ha detto. Ma credo che è dimostrato che in questa, diciamo, l'omertà paga, l'omertà è anche invocata istituzionalmente in questo momento. E adesso ne parleremo. Senta, però, senza anticipare il giudizio, lei per la vicenda della calunnia di De Gennaro si dichiara innocente? No, lo vede, Cruciani, dobbiamo partire da dobbiamo fare un passo indietro. Molta gente mi ha identificato come colui che doveva portare la verità assoluta su queste vicende. Sì, quello anche il dottor Ingroia la identificò con questo. Ma è sbagliato, io raccontavo la famosa versione di Barna, io raccontavo la versione di mio padre. Sì. Non è che a me mi è stato chiesto di dire la verità, io ho sempre raccontato quello che era il pensiero, anche accompagnato spesso da carte, di mio padre. Poi è compito dei magistrati. Senta, ma lei tagliare se certo, mio padre aveva antipatie, se accentuava delle antipatie accusando persone, se ne salvava altre, ne teneva estranei pezzi di soggetti a lui legati. Questo è un compito che va fatto alla magistratura. Senta, io ho raccontato la mia versione. Ma lei si è sentito un po' tradito dal dottor Ingroia? In un'intervista recente a Libero ha detto forse cercava legittimazione, diventare testimone della procura di Palermo, è stato ingenuo se ha pensato di salvare il patrimonio all'estero di famiglia. Ma io mi meraviglio che il dottor Ingroia possa dire queste parole, perché credo che non c'è neanche un dispositivo di legge che consente a me di salvare il patrimonio. A differenza dell'America, dovrebbe ricordare il dottor Ingroia, l'azione penale in Italia è obbligatoria, per cui qualsiasi notizia di reato vince dai miei interrogatori o da altre indagini che loro fanno, è chiaro che devono procedere nei miei confronti. Ecco, ma cosa è successo? Prima in qualche modo avevate anche un legame, adesso pure guardavo i suoi computer, a sentire i giornali ovviamente avevo accesso pure ai computer. No, vabbè, lasciamo perdere questo, insomma, però voglio dire, si è sentito tradito da Ingroia a un certo punto? Non mi sono sentito abbastanza cautelato da Ingroia? In genere, dalla procura, nel senso che venivo visto con diffidenza, e questo è il più grosso errore. Fondamentalmente il domandarsi già loro stessi il perché lo facevo. Era così anomala la mia posizione di qualcuno che rispondeva alle domande in una cultura omertosa dove l'omertà paga, l'omertà viene invitata, dicevamo istituzionalmente, che lo stesso Ingroia e gli stessi magistrati si chiedevano il perché Ciancimino risponde e cercavano di darsi una risposta. Sarà il tesoro, sarà che vuol diventare un'icona antimafia. Questa è la nota. Beh, l'icona antimafia fu una definizione di Ingroia, se non sbaglio. Io credo che però io vorrei capire una cosa, scusi, però io con Ingroia, lei ha qualcosa da rimproverare ad Ingroia? Cioè si è rotto questo sodalizio? Sì. Non c'è stato mai un sodalizio. Vabbè, un sodalizio. Magistrato, io faccio o il test o l'indagato. Credo che Ingroia, nel ricordarmi nel suo libro, come mi ricordo le parole che aveva scritto nel suo libro, Quinto Potere, ora mi ricordo La Cauta degli Dèi, non so qual era, che Ciancimino è eccessivamente mediatico, che ama andare ai congressi politici, che ama le presentazioni del libro, mi sembra che a volte insomma aveva uno specchio davanti quando parlava, oppure parlava di me. Presenzialista, vabbè, questa non è una novità, lo dicono tutti. Insomma, si dice che chi pratica lo zoppo impara a zoppicare. Senta, ma Napolitano. Già non mi basta la calunnia con De Gennaro. Ditemi Napolitano. Napolitano. Queste telefonate, lei vorrebbe conoscere il contenuto di queste telefonate di Napolitano? Non si tratta di io voglio, è un mio diritto. Addirittura? Certo. E perché? La cacofonia addirittura un diritto, dico, ma no, perché credo. Cioè, credo, non sono un legislatore, cosa a differenza di Napolitano, non ho la preparazione dei vari professoroni che in questi giorni si sono... Certo. Però? Hanno parlato però credo che io rappresento una di quelle famose 12 parti a cui spetta consultare gli atti. Ecco, ricordiamo che le intercettazioni non sono decise da un PM, le intercettazioni sono decise da un GIP. Sì. E le stesse, per essere distrutte, devono essere visionate dal GIP all'interno della Camera di Consiglio alla presenza Va bene, d'accordo, però sono state dichiarate ininfluenti, non utili. Prego. Sono state dichiarate ininfluenti. Non utili. Ma questo lo decide la mia difesa. Io credo che non può essere prerogativa del PM decidere se sono utili o non utili al suo impianto accusatorio, ma possono essere utili al mio impianto difensivo. Questo credo che è facoltà mia deciderlo. Scusi Ciancimino, ma è il Presidente della Repubblica, è il Presidente della Repubblica, Ciancimino. Cioè non è che si possono adesso ascoltare le telefonate pure del Presidente della Repubblica. Ma le dico una cosa, se una telefonata, diciamo, incidentale, perché ovviamente credo che queste telefonate si tratta sempre di avvenimenti incidentali, dovesse per assurdo riguardare la confessione di un delitto, un ex deputato, di una tangente, di una cosa per cui oggi è indagato una persona o addirittura... Ma avrebbero già agito i giudici in questo caso, no? Prego? Avrebbero già agito i giudici in questo caso se ci fosse una situazione del genere. Ma questa non è notizia di reato, questo è discolpa, questo è anche un elemento a difesa di qualcuno. Vabbè, insomma, lei ha diritto... Però lei chiede di poter leggere quelle telefonate, di poter vedere quelle telefonate. Ascoltate. È un mio diritto. E cosa farà per espletarlo? Esatto, cosa farà per difendere questo suo diritto? Ovviamente aspetterò pazientemente quelle che saranno le decisioni del giudice terzo, in questo caso la Corte Costituzionale. Io le mie telefonate le ho viste pubblicate da tutte le parti, ho visto pubblicate telefonate del Presidente del Consiglio. Non scordiamoci che ho visto pure pubblicate intercettazioni o dichiarazioni di ministri che solo per aver detto coglione a Biagi si sono dovuti dimettere per il loro comportamento. Io vorrei capire cosa teme il Presidente della Repubblica dalla pubblicazione di queste intercettazioni. Ma no, è una questione di principio costituzionale, ma questo lui dice. Non si va avanti, sui principi l'Italia si è fermata al 92. Ma secondo lei ha qualcosa da rimproverarsi, ha qualcosa da nascondere Napolitano? Credo che opportunità e tempismo mi fanno pensare male. Devo dire che diciamo il vecchio Andreotti diceva che pensare male non è bene, ma spesso si ci azzecca. Credo che a 72 ore dalla commemorazione del ventennale di Borsellino, sollecitare il conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale, insomma, credo che c'è qualcosa il buon Napolitano con i suoi abili consiglieri capirà quali sono i momenti opportuni per poterlo fare. Se ha voluto andare oltre questi momenti, significa che qualcosa sicuramente vorrà nascondere. Va bene, grazie ma a Massimo Ciancimino. Che c'è? No, volevo chiedere questo, Ciancimino, ma qualora lo ritenesse utile alla sua difesa, lei chiamerebbe, come dire, anche in un'aula di tribunale Napolitano? Certo, perché non, cioè, Napolitano fondamentalmente credo che prima di tutti è un cittadino, poi è il mio presidente, è il presidente di tutti, poi ci può essere amato o non amato. Quindi, ma potrebbe citarlo in giudizio come testimone? Potrei citare le sue, usare le sue telefonate. Sì. Ricordiamoci che io il 10 maggio dell'anno scorso ho non accusato, ma ho detto che nella mia nel mio avviso di garanzia per calunnia di Gennaro c'era stata una telefonata diretta di Napolitano alla procura di Caltanissetta. Questo l'ho detto in tempi non sospetti, nell'udienza in cui ero per giunta limitato nella mia libertà personale al processo Mori il 10 maggio del 2011. E agli atti del processo dove ho dichiarato che avevo saputo per certo che Napolitano aveva sollecitato, cercando di aiutare De Gennaro per soccorrere a De Gennaro, la mia iscrizione per calunnia. Addirittura. Di De Gennaro. Questo l'ho detto nel maggio 2011. Io vorrei sapere se ci sono telefonate in questo senso, voglio sapere se ci sono atteggiamenti del Presidente della Repubblica in questo senso, voglio sapere cosa pensa il Presidente della Repubblica della Procura di Palermo e cosa pensa la Procura di Caltanissetta. Non è che è tenuto, a dire cosa pensa della Procura di Palermo, sarebbe gravissimo. Ma bisogna vedere cosa ha detto nelle telefonate. Ma sì, ha capito cosa ha detto nelle telefonate. Sono irrilevanti. Sono secondo irrilevanti. I giudici sono irrilevanti. Dice... È il capo dello Stato. Ma non, io credo che il giudizio non si deve fondare anche su quelle che sono notizie di reato o non notizie di reato. Credo che il Presidente della Repubblica in questo momento, di fronte a quella che è un'indagine come una trattativa, debba andare oltre a quelle che sono le formalità. Va bene, grazie. Massimo Ciancimino con noi. Grazie a voi. Auguri, auguri. Giovanni da Biella, buonasera. Giovanni da Biella. Buonasera. Auguri, che devo dire? Avevamo riammazzato, come ha detto la cosa. Ha detto delle cose importantissime, molto forti. Ha detto delle cose spaventose. Lui è in Parlamento unicamente per autodifesa. Ma chi? Chi? Chi? Dell'Utri. Dell'Utri, sì. Che è una cosa vergognosa. Ma l'aveva già detto, l'aveva già detto. Sì, certo che l'aveva già detto. L'aveva già detto, è in Parlamento dell'Utri, è in Parlamento solo per difendersi dalla magistratura. Così ha detto. Ma meno male, scusi se glielo dico, Giovanni. Ma come meno male? No, ma viva la sincerità. Ma come meno male? Viva la sincerità. Ma sì, viva la sincerità sicuramente, ma la deve smettere di considerare i cittadini italiani come strumento delle sue salvaguardie. Ho capito, ma lui è il rappresentante degli italiani. Ma sì, ho capito, è un rappresentante. È una vergogna che le cose siano in questi termini. Va bene, sarà pure una vergogna. Comunque lui dice: sono in Parlamento solamente per difendermi dalla magistratura, se no altrimenti non ci sarei andato. Nel 94 facevo le liste. Berlusconi, poi lo dirà anche Bossi, poi lo diranno tutti gli altri. Lo sappiamo che non sto in Parlamento. Vabbè, allora si indigni, avanti. Si indigni. Ma al di là di questo, che era solo incidentale la faccenda su Dell'Utri, dico sicuramente la Sicilia è da commissariare. Commissariamo la Sicilia, come tutte le altre regioni, che non sono da meno. Quindi cosa facciamo? Eliminiamo le regioni, eliminiamo le province. Beh, guardi, le regioni ci sto pensando anch'io, eh. Ci sto pensando molto seriamente, certo, che è il caso di eliminarle. Cosa ci stanno a fare? Cosa ci stanno a fare? Facciamo un Parlamento che sia di derivazione no regionale. Però scusi, il punto è un altro, Giovanni, abbia pazienza, è molto semplice, cioè tutta questa storia delle autonomie eccetera si è dimostrata alla fine un grande spendificio, un grandissimo spendificio. Qualcosa bisognerà fare, bisognerà intervenire in qualche modo, sì o no? Signor Giovanardi, però la possiamo far passare questa, no? Parenzo? Basta, guarda, tra le tante cose che dice il signor Giovanardi mi pare la meno significante, diciamo, no? Gianfranco dalla provincia di Bergamo, buonasera, signor Gianfranco. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Sono indignato perché continuate ad invitare in trasmissione gente come Dell'Utri. Sì. Che sinceramente non avrebbe titolo a parlare dopo tutto quello che hanno combinato, le condanne, la mafia. Senta, Dell'Utri è un protagonista dell'attualità. Senta, dunque, se lo invitiamo, Cruciani, parla. Senta, Cruciani, sia buono, faccia parlare di più Parenzo, che lei di queste cose non è molto pratico. Ecco. Di che cosa non sono pratico? Scusi, le scappano via tanti argomenti in politica. Quindi faccia il bravo, sì. Faccia parlare, dia più spazio a Parenzo. Me lo ricordo dalla Tele Lombardia con povero sì. Vimercati che c'entra Vimercati. È più ferrato di lei. Ma su che cosa? Quindi, scusi, su tutto. Perché lei comunque conduce una trasmissione della sì. Confindustria sì. di un programma e non può far intervenire gente come Dell'Utri. Ma chi gliel'ha detto questo? Ma certo. Ma chi lo decide lei? Ma ma è vergognoso. Ma lo decide lei chi devo invitare o no? Ma lo dicono gli italiani, lo dicono gli italiani. Lei rappresenta gli italiani? Ma ne rappresenta una buona parte. Ah, una buona parte, sì. Certo. Una buona parte chi sarebbe? Sentire gente che si vanta di aver preso 40 milioni. Se la prende con Dell'Utri. No, ma la prendo con lei, non con Dell'Utri. E se la prende pure lei con me. Non li deve, che non gli deve dar voce a questa gente. Sì. Ma ci mancherebbe, scusi. Sì. Pensa di aver ragione. Vuole venire qui? Vuole venire qui al posto mio? No, ma per l'amor di Dio, lei si faccia il suo lavoro, io faccio il mio, ci mancherebbe. Allora, la seconda cosa. Allora mi lasci fare il mio lavoro e non mi rompa le scatole su queste cose. Bravo, continui così allora, va bene. Certo, la saluto. Certo che invito Dell'Utri, tutta la vita invito Dell'Utri, tutta la vita, caro Gianfranco, invito Dell'Utri, quando Dell'Utri è di attualità, capito? Va bene. Ha capito sì o no? Ha capito o no? Sì. Perché lei non sa come funziona. Io dico come funziona. Ecco, io lo spiego io, dato che lei è abbastanza vergine da questo punto di vista. Ah, sì. Sì, sì. Allora, quando c'è qualcuno che fa notizia, non si tenta di intervistare un'altra persona, si tenta di intervistare proprio quella persona che fa notizia. Ha capito o no? Ma Cruciani, scusi, ma si rende conto che Dell'Utri è uno dei simulacri? Ma non mi interessa. Ma è appunto per questo che lo invito. Lei non ha capito, non capì. Esatto, proprio per questo. Se lei non capisce, pazienza, che devo fare? Capirà. Ok, capirà. Tanto, arrivederci, salve. Arrivederci. E ride pure. Lino da, non capisce e ride. Lino no, da Messina. Sono casi gravissimi questi qua. Lino da Messina. Non capisce e ride. Buonasera. Dica, Lino. Buonasera. Caro Lino, dica. Io per dire la verità sono veramente contento di sentire la vostra trasmissione da tantissimo tempo e vi ringrazio per quello che dite e per quello che fate, perché se non sentissimo queste cose proprio in diretta da voi non le sentiremmo. Ma non c'è problema, parte. Non abbiamo bisogno di difensori, comunque la ringrazio Lino, per carità. No, non è che voglio difendere, dico per eludirci su questi soggetti che forse, ma non vorrei dire una grossa, meriterebbero di essere incrapettati. Perché veramente è pauroso quello che si sente dire e come lo dicono, anche la risata, io se, pur telefonando diciamo dalla Sicilia, se cerco di fare quella risata non ci riesco, perché proprio è la vera risata mafiosa di quello. Ma quale? Che, per esempio quale? Ma che risata? È quella di Dell'Utri. Vabbè, ma adesso non è che esistono risate mafiose e risate meno mafiose, no. Abbia pazienza Lino, su. Sì, scusi. Ma quella è fortissima, proprio è la vera risata che fa tremare il mondo, perché averlo davanti uno, voglio dire, un pochino si impaurisce. Dice lei, Perché sì, ma io non perché mi... ma impaurire di che, Lino? Cosa impaurire? Ma veramente fa impaurire questa risata? Risentiamola. Ma è una risata qualunque, Lino? No, non è qualunque. Guardi, non è una risata qualunque. No, alle spalle. Alle spalle c'è un che potere c'è. Incredibile. C'è il potere della io risata. Credo che ci sia. No, tantissimo altro potere. Non mi spinga a dire quello che mi spavento di dire. Ma no, ma lei non si deve spaventare a dire nulla. Dica. Qui non c'è niente di cui spaventarsi, è tutta la luce del sole. Ma guardi, loro c'è un signore su Twitter, c'è di tutto naturalmente, caro Parenzo, no? Senti che mi scrive a un certo punto, dopo delle frasi forse che ho detto su Dell'Utri, non so che cosa, sei vergognoso. Vabbè, io ho risposto e me ne vanto pure. No, bisogna aspetta, che... risposta di quest'altro signore, in un paese normale faresti il lavapiatti. Perché? E io ho risposto ancora, bel lavoro. Vabbè Lino, proseguiamo, su. Ma poi diciamo quando c'era la Santanchè purtroppo non sono riuscito a entrare e veramente dico con quella bocca prensile può dire ciò che vuole. In che senso? Le racconto un piccolo episodio. Quando ci sono state le ultime elezioni per cui realmente si votava e si votava e in quel caso per lei si sarebbe dovuto votare per la destra, lei venne a Messina in un cinema dove si facevano film a luci rosse, guarda un po'. Ma chi? E era la Santanchè, sono anni indietro. E guardi, il cinema era strapieno, traboccante di persone, perché lo spettacolo che lei ci fece dicendo tutto ciò che voleva e tutto quello che pensava di Berlusconi all'epoca quando si presentò con la destra, ma mi creda, e poi il movimento di quelle labbra, il movimento di tutto il corpo, vabbè, è stata una cosa eccezionale. Siamo usciti da quel cinema tutti veramente, come dice lei, goduti. Ecco, ci ha fatto godere a tutti in una maniera incredibile, e gratis, perché non ha preso un voto, tant'è vero che non è stata eletta. Va bene, Lino, grazie. E poi no, le volevo chiedere un'altra piccola cosa, mi perdoni, mi faccia finire. Le volevo chiedere, poi, dopo anni e anni di lecca-lecca, che cosa si è dovuto rifare per diventare sottosegretario? Chissà, glielo chiede lei che è molto No, bravo, lei che sa tutto. Scusi, lei che sa tutto. Lei che sa tutto, Lino. Mi dica che cosa ha dovuto fare per diventare sottosegretario. Non me lo dica lei che sa tutto. No, non lo so. Guardi, sinceramente, ma non lo so, non faccia così. Dica quello che pensa. Dica l'ennesima stronzata, su. Mi perdoni. Allora le dico un'altra cosa. Mi manca tantissimo nelle trasmissioni di anni fa. Lei chiamava in causa tante volte il diavolo di Padre Livio, no? Sì, mitico Padre Livio Fanzaga, Don Livio Fanzaga. Mitico, ma veramente grandioso. Purtroppo non siamo mai riusciti a pizzicarlo. Lo farei diventare editorialista della Zanzara, Padre Livio Fanzaga, ma non vuole. Ma veramente, è troppo forte. E allora mi scusi, invece di chiamare a Padre Livio, al limite chiamate il diavolo e fatelo parlare con la Santa Che. Allora, Lino, la ringrazio, lei è molto spiritoso. Intanto il nuovo nome del PDL potrebbe essere l'Italia che verrà. L'Italia che verrà, forse il nuovo nome del PDL. Ma io voglio dire, va cambiato un po' forse il passo, perché c'è troppa volgarità, ospiti anche, no? Ma che vuoi? Ma cosa io vuoi? Credo che, ad esempio, perché non invitiamo un grande intellettuale come Ari Saccornero, il grande storico e sociologo? Sicuro. Roberto storico del movimento operaio, Ari Saccornero. Sì, sicuro. No? Roberto, stai zitto, Roberto da Pavia. Perché c'è sempre... Cioè, con noi Mario Borghezio... Roberto da Aris a Cornero, invito i radioascoltatori. Ti sei fissato con questa cosa a studiare i saggi del grande operaista intellettuale Aris. Ma chi se ne frega, Roberto da Pavia, con tutto rispetto per Cornero, chi se ne frega di invitarlo qui alla Zanzara in mezzo a due cialtroni? Roberto da Pavia. Parenzo, Cruciani, lasci parlare Parenzo, che è il povero lavapiatti, cosa ci fa lì? Lo so, cosa vuole fare. Che le dica. La penultima telefonata dove è stato attaccato per il fatto di aver invitato Dell'Utri è... vabbè, la dimostrazione che l'Italia può andare solo in questo modo, perché non capire che il fatto di far parlare anche esponenti discutibili può dare la possibilità a tutti di capire come è la realtà. Ma non c'è manco bisogno di spiegarlo, Roberto. Probabilmente qualche volta bisogna spiegarlo, scendere un pochettino, fare un passettino indietro per spiegarlo. Comunque, a parte questo, non era il motivo di intervento. Sono d'accordo con lei, discorso del commissariamento, perché il fatto di votare non cambia assolutamente il quadro generale. In Sicilia, dice lei. In Sicilia, sì, perché non cambia quello che è la situazione che ha creato questo debito, questo modo di ragionare, questo modo di risolvere i problemi. E allora che bisogna fare? Ma assolutamente deve esserci qualcuno di esterno al sistema locale che abbia un attimino... Questo poi nella teoria, perché poi non conoscendo la situazione... No, ma certo, ma noi la buttiamo lì. Quello che è certo è che dopo le elezioni resterà tutto come prima. Siamo qui, Paolo da Torino è con noi, buonasera. Sì, salve a tutti, io volevo dire due cose. La prima su Parenzo, che ha aggredito l'ascoltatore siciliano, no? Dicendogli che in dei conti sono stati siciliani a votare questa amministrazione da anni e anni. È assolutamente così. Sì, però insomma, come se gli siciliani fossero degli imbecilli che ci godono a votare dei ladri per farsi derubare. No, semplicemente sono d'accordo su come è organizzato il sistema in Sicilia, cioè votano le persone che possono assicurare i posti di lavoro alla regione, eccetera, le famose clientele. Gli elettori votando alla fine non riescono a cambiare le cose, non cambiano Ma non vogliono niente. Cambiare. Non è vero. Cioè, non e è come vero. Non vogliono cambiare? Lei, se fosse un siciliano, avrebbe piacere di avere un'amministrazione che funziona oppure no? No, esattamente scusi Paolo, è esattamente come ha detto lei. Cioè, se io fino adesso, che cosa hanno dimostrato gli elettori siciliani? Io non sto accusando nessuno, hanno dimostrato che la cosa più comoda è votare le persone che assicurano posti di lavoro, clientele, lavori senza una vera e propria concorrenza, eccetera, eccetera. Secondo e tutto me, il resto. Come no? È così. La maggior parte, poi ci saranno sicuramente delle persone che invece sono estranee a questo, ma la maggior parte dei siciliani hanno votato finora politici locali a livello comunale, provinciale, regionale solo in base a questo criterio. Io credo invece che la maggioranza dei siciliani. E allora che cosa sono? I politici turpi e cattivi? I politici turpi e cattivi? Ma purtroppo se ci sono solo dei ladri che vanno in politica a rubare, cioè i siciliani come fanno a cambiare le cose? Cioè, non credo che la maggioranza dei siciliani voti perché abbia come si dice, un profitto immediato. Ma è proprio così invece, Paolo, è proprio così, è esattamente così. Caro Paolo, le posso dire di più, le clientele si fanno sempre in due, mai da soli, cioè se c'è un politico che offre, c'è sempre qualcuno che accetta, quindi è una logica purtroppo molto diffusa, in Sicilia moltissimo. Sì. Anche al nord esistono clientele, ma lì si basa molto su questo. Non è io che credo, stiamo dicendo... credo invece che, mi scusi, i siciliani, la maggioranza dei siciliani onesti se la stia prendendo in quel posto alla grande, per colpa comunque di una minoranza. Cioè, che minoranza non direi, minoranza non direi. Comunque Paolo, guardi, per carità, io... C'è un grande personaggio come Ivan Lobello che si è ribellato a questa roba, che non presenta la Confindustria Sicilia, non lo dico perché è della Confindustria Sicilia, ma perché è quello che più su questa roba ci ha messo la faccia, che ha denunziato da anni lo stato dei fatti in quella regione. Cioè, ci sono persone che denunciano costantemente, dicono il sistema è marcio, ci sono, poche, ma ci sono. Paolo, la ringrazio, intanto il mio scontro con questo utente di Twitter continua e tu sei un cialtrone come quando dai voce a gente come Borghezio. Caro ascoltatore, beh insomma io continuerò a dare voce a gente del buonasera, genere. Buonasera a lei, grazie. Chi è? Buonasera. Chi stai salutando? Un fan che mi ha salutato. Angela buonasera. Tremonti, buonasera, come sta? Quella, bene, voi come state? Oddio, quanto tempo. Ma lo sai che io ho qui il suo meraviglioso quadro? E l'ho vista, è la mia tangente. Angela come Tremonti, tangente? Guardi che questo qua vale un sacco di soldi, eh? No, non vale niente, è solo il frutto di una notte in cui ho pensato a voi... E mi sono messa in gioco cercando di interpretare con dei segni e dei colori il movimento e il ritmo che date alla vostra trasmissione. Scusi, noi come siamo identificati? Uno scoop qui, c'è uno scoop. Cosa? Aspetti che c'è uno scoop di Parenzo, un finto scoop. Buonasera signore, Parenzo della Zanzara, salve. Buonasera, senta, no, volevo capire se lei è un sostenitore del governo tecnico di Monti, giusto? No. Ecco, anche lei che sostiene il governo tecnico ritiene giusta la riforma delle pensioni, ad esempio, no? È una favola. Ecco, abbiamo sentito un'altra testimonianza in diretta di persone favorevoli. Ma chiedi qualcosa che conosce la trattativa. Che, che ne pensa lei della trattativa Stato-mafia? Signor, lei si chiama, signor? Sergio, finalmente diamo voce alla gente comune, alla gente normale. Certo. Signor Sergio sta girando con questo cane, questo cocker per le strade di Roma. E quindi, signor Sergio, la trattativa. La trattativa, secondo me, è tutta una maschera da vedere. Il ritorno di Berlusconi? Il ritorno di Berlusconi, signor Sergio. Ma che te devo dire, domande? Forse è meglio. Forse è meglio. Io credo che queste interviste siano delle perle proprio che insegnino anche noi, siamo una scuola di giornalismo. I matrimoni gay, chiedi i matrimoni gay. Aspetta, i matrimoni gay, chiede signor Cruciani. Lì c'è un po' di... È favorevole, vero? Non cioè, se lei vede due gay che si baciano, però da lei è felice. Non mi incazzo. Ecco, è felice, ha detto. Ma no, ha detto che si incazza. No, ho sentito male. Le interviste per strada di Parenzo. Bisogna sempre dare... Buonasera. Pronto. Adesso io però vi saluterei per... No, non davanti, ci devi salutare, c'è il traffico e poi c'è la mitica Angela Tremonti che con noi ci ha aspettato fino adesso, autrice di questo meraviglioso quadro dedicato alla Zanzara che naturalmente alla radio non si può vedere, ma ci ha identificato non come Zanzare, come cosa signora Tremonti? Via Vai delle Zanzare c'è anche quel rosso con i puntini bianchi del velenosetto dei funghi e c'è anche un paesaggio della notte e la voce che raggiunge tante persone che vi ascoltano anche più tardi rientrando a casa in macchina dal lavoro e si divertono. Ma questo è uno spot? Si incazzano. O si incazza, è uno spot meraviglioso. Cioè o si divertono oppure... si incazzano, lasciatemelo dire. Grazie, traffico, torniamo subito, resti lì, dobbiamo chiedere qualcosa di importantissimo sul suo fratello, importantissimo. Sono tutti magnacci, magnoni e ladri. Ecco, buonasera Crociani, buonasera. No, buonasera Crociani, faccio meglio io. Com'è che lo fa suo fratello lei? Pronto, sì, a Giulia Tremonti, sì, indipendentemente da questo, perché forse, ma non sono bravissima, no, non so. Senta, ma è vero che vuole fare un partito nuovo? Beh, l'ho letto anch'io, ma se se la sente... l'ho fatta, è dura e comunque perché non è facile. Spero che non lo chiami lista Tremonti, perché quel nome lì l'ho già dato io alla mia lista in comune di Cantù, mia miserabile listarella, e se gli dà il nome lista Tremonti magari avanzo anche qualcosa come diritti d'autore. Addirittura. Però scusi, come dice Parenzo, vi volete bene in famiglia. No, ho imparato da Vittorio Gardi. Scusi attimo, però gli dia un consiglio, non faccia sta lista. Cioè, non faccio... io sinceramente credo che Giulio fa un grosso errore. La prima idea, quella di un partito legato alla Chiesa, eccetera, non avrei potuto assolutamente contestarlo dal punto di vista non contenutistico, ma dal punto di vista dei risultati, perché secondo me se vai con la Chiesa vinci. Come se vai con Obama, come se vai con i potenti. Ma perché si è parlato di una di un Tremonti che va con la Chiesa? All'inizio parlavano di qualcosa legato alla Chiesa. Adesso va con quelli legati a Prodi, pare, con qualche persona. No, io se ho capito bene va con quello che ha organizzato il camion di Prodi. Sì, Pecci, un tale Pecci. Anzi, Pullman. Che se poi organizza il pullman ci faccia sapere quali sono le fermate, che magari andiamo insieme a prendere il biglietto, lo obliteriamo e andiamo ad ascoltare. Vabbè, mi sembra di capire che lei consideri questa cosa di suo fratello una stupidaggine, cioè non bisogna fare una lista da soli. Ma quanti voti prenderebbe? Non prenderebbe un voto, mi dica la verità. Ma come si fa a fare supposizioni? Per esempio... No, ma suo fratello ha consenso nel paese, no, ma chi da solo... Beh, quando è andato a presentare il suo libro in diversi posti, devo dire che c'era fuori la coda, soprattutto perché le persone... Giulio ha ancora una grande credibilità dal punto di vista economico, perché Monti ha fatto un flop e sta facendo un flop. Beh, te credo, gli ha lasciato un paese disastrato in parte. Ma forse il paese disastrato è partito proprio da Prodi, perché il cambio poteva essere migliore. E poi siamo disastrati noi italiani come mentalità, come modo di essere. E non cambierei. Sì. Infatti, non so se qualcuno vi ha detto che ho scritto un testo per una canzone. Pure? Sì, perché ormai disperatamente... Parenzo, hai capito? E me l'ha musicato un certo Andrea Ferrante di Palermo, fra l'altro, un siciliano molto bene. L'ho anche mandato, magari in giro ce l'avete. Ma come no? Ho voluto confondermi, non parli, no, non hai più vita e canti. Che non è una stupidaggine, è una cosa non ho detto questo. Stata, ed è in fondo un canto, una preghiera, perché alla fine non ci resta o che piangere o che cantare. Allora, la sorella di Giulio Tremonti, Angela Tremonti, non dico che intona, no, però ci legge... No, intona no, scappo. Ci legge Fammi entrare. Hai già commesso un errore, perché è Tremonti che è il fratello di Angela. Hai ragione. Ma chi è quest'anima? Parenzo, chi è? È Parenzo. Oh, Parenzo. grande Davide. Allora com'è che fa? Come Tremonti che è fratello di Angela. Vabbè, abbiamo capito. No, c'è un altro ospite qui vicino a me. Chi è? La collega con la quale monto i servizi ha in onda. Ma chi se ne frega? No, lei è una minore. Saluti, sono Crociani. No, grazie. Ecco, ti c'è il grande estimatore e affetto. L'ho capito subito. Allora, ho voluto confondermi. Si chiama Francesca Bea. Va bene. Ho voluto confondermi, non parli, no, non hai più vita e canti. La tua mano prendeva la mia mano, grembo vuoto, sospeso nel silenzio. Per favore fammi entrare nella tua danza a respirarti l'anima. Nella morte vita no, non muore. Per favore fammi entrare, arrancare nel silenzio nel tuo abbraccio infinito ancora. Di preghiere una danza è già piena, l'abbandono d'azzurro e viola tinto. Per favore fammi entrare, confondermi nel fascio delle stelle, nelle tue ali calde, ancora fammi entrare. I passi cercheranno un limite oltre il quale io ti sto cercando. Ti sento, sai, ti voglio ancora qui, onde, nuvole del mio cielo. Dolce e soave nudità divina. Ma cosa incredibile. Suprema volontà. Cosa strugge? Un po' fettente sta canzone, un po' cattiva, un po' triste. Beh, cattiva. Scusi un attimo. Guarda che la vita... è una cosa struggente. Ma lei che pensa della signora Santanchè, per esempio? Hai presente i colori bianco e nero? Ecco, io posso essere anche il nero, il bianco, ma siamo proprio gli opposti. Io non ho niente contro la signora Santanchè. Sì. Certo è vero che prima di tutto si chiama Garnero. E vabbè, quello lo sapevamo. Vabbè, ma perché si chiama Santanchè, Santi e che, lasci stare i Santi e si continua a chiamare Garnero. E perché deve lasciare stare i Santi? Perché a me non si chiama Santanchè, ma si chiama Garnero. E vabbè, d'accordo, però. Poi si è sposata non so quante volte. Vabbè, si è sposata una volta sola. Poi, secondo me, se Berlusconi crede sì. di avere un emblema femminile con la Santanchè... secondo me fa un grossissimo errore. Perché? Se poi invece voi la usate per far andare sotto alle ginocchia la voglia delle donne di votare Berlusconi, ci siamo. Ma scusi un attimo, ma la ricandidatura di Berlusconi, lei che l'ha votato Berlusconi, immagino qualche volta? No. Beh, come? No. Suo fratello l'avrà mai. Votato alle elezioni. Mai votato no, Berlusconi lei? Sono stata a casa. Mai votato Berlusconi lei? No, non ho mai votato. Manco suo fratello dunque, lei non ha mai votato suo fratello? No, mio fratello l'avevo votato forse 10 anni fa quando si era candidato a Sondrio con... come si chiamava? Con i progressi, no, con i Dinieri. Il patto no. di... il patto, patto segni. Segni. Patto ecco, segni perfetto. Il patto segni. Fermi patto tutti segni. Però, veramente. Cosa? Veramente aspetta, nonna. Aspetta. Fermi aspetta. Tutti perché c'è il direttore. C'è il direttore. Aspetta, siamo in diretta. È il direttore, aspetta. Ma chi? Aspetta. Quale direttore? È il direttore, se stai buono, sono che sta per andare in una trasmissione. Aspetta un attimo, stai tranquillo perché è impegnato in una conversazione col Viminale. Chi è questo direttore? Ecco, aspetta. Ci vediamo. Mamma. Chi è? Avanti, elegante, chi è? Elegantissimo. Allora, in esclusiva alla Zanzara è con noi il direttore Mario Secchi. Mario, ogni volta devo... Io possibile siete che... incorreggibile, ormai è un assalto continuo. Ma scusa, ma perché devo ogni ciao, volta... Giuseppe. Ma mi capisci tu, io ho a che fare con questo cialtrone che si piazza davanti lì e mi illude che ci sia, non so, per carità io ho grande rispetto per e te. E ti illude di beccare i VIP e invece becca il povero Secchi. No, per carità, perché mi illude di portarmi a un grandissimo ospite che farà notizia oggi. E poi ti porta invece un compagno di merende, Mario. E poi mi porta, come dire, una persona che stimo moltissimo, ma certo, è direttore di un giornale, cioè un nostro collega, a questo punto siamo, no? Senti, tu che ormai sei Mario Secchi, direttore del Tempo, si è trasformato in una sorta di economista, hai scoperto l'economia da un po' di tempo. No, ma io l'economia la conosco fin da bambino in realtà. No, lo so, però ti sei trasformato ultimamente in un grande analista economico, adesso non lo dico per scherzo, però... L'economia è tutto, mio caro. Lo so. Ma quanto pari della trattativa Stato-mafia? Quanto fai? 2 righe al giorno? Quanto fai? La trattativa Stato-mafia. A te intriga? Zero. A me no. Zero. Ai miei elettori ancora meno. Zero, assolutamente. No. E i matrimoni zero. Gay quanto intrigano? Ah, è l'argomento numero uno dell'agenda del paese. Però adesso questo meglio dire. Anche questo, non è che c'è solo che c'è solo lo spread, l'allarme Spagna e tutto. Deve andare. No, io sono, per carità, facciano quello che voglio. Devo andare in trasmissione. Ciao, mi ciao, ciao Mario. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Poi, ma come era vestito? Chi? Signor Secchi? Se era così elegante, sono curiosa. E che ne so, lo dice Parenzo. Ma è figo? Figo? No, ma non bisogna credere a quello che dice Parenzo. Non bisogna mai credere. Perché ha dei gusti un po'. Allora, anche il mio quadro non è bellissimo. No, è molto bello invece. Molto bello, lo esporrò qui in redazione. Ma Parenzo gliel'hai fatto vedere. Ma Parenzo non gliene frega niente del tuo quadro. Allora basta un quadro, perché pensavo di farne uno anche per Parenzo. No, Parenzo, non regali quadri a Parenzo, non gli piacciono. Sì, così, no. Gli lascio, così ti regalo solo un suolo vuoto. No, un lenzuolo. No, lo voglio il quadro di Angela, così lo vendo e mi pago il mutuo. Sì, e paga anche i soldi che gli ha chiesto per scherzo. Vittorio. Comunque vi ho regalato un'esclusiva pazzesca. No, è veramente eccezionale. Non so come ringraziarvi, perché veramente poi il fatto che hai letto questo testo, che secondo me è una nuova preghiera. Io ne ho anche un po' piene le palle quando voglio pregare di dire Ave Maria, grazia plena, Ave Maria, oppure Padre Nostro, oppure gloria al padre, ma perché non inventiamo qualche preghiera nuova? Beh, ma sì, ma che dice? Ma che dice, signora? Ma Tremonti? No, ma voi lo sapete quando sono nate queste preghiere? Io no, ho chiesto in giro, ma nessuno lo sa, arrivano da anni ma a dietro il mattino. Ma per forza! Cioè, non è che adesso arriva Angela, con tutto rispetto però, non è che adesso arriva la signora Angela Tremonti e dice bisogna cambiare la liturgia, bisogna cambiare le preghiere. Devo dare la linea alla borsa, grazie Angela Tremonti. Ti abbraccio, a presto, ciao, a presto, ciao, ciao, ciao. Giovanni da Pesaro, buonasera. Buonasera, Bada. Sono Giovanni, sì. 60 anni tondi. Sì. Come esodato di una grande banca. Scusi Giovanni che si è dichiarato esodato, ma la sentiamo poco, la richiamiamo. Mariella da Trieste. Allora, dottor Cruciani, a lei è a Trento. Dica. Mi sente? Sì, allora, sì. Alcune sere fa io ho sentito lei che elencava i nomi dei parlamentari che sono assenteisti al 100%, vero? Sì, come no. Come no? Allora voglio dire, siccome che un lavoratore normale se non va a lavorare non viene più pagato, perché non facciamo che noi non li paghiamo più? Perché non li paghiamo più tutte queste persone? Ma ci dovrebbe essere una sanzione, forse c'è una sanzione all'interno del Parlamento se uno non partecipa alle votazioni. Spero che queste sanzioni siano applicate, credo che esistano in ogni caso, cara signora Mariella. Cioè, se uno non va alle votazioni, se uno non partecipa, eccetera, ci sono delle sanzioni anche pecuniarie. Pecuniarie, cioè non prende la diaria o non prendono, eccetera, eccetera. Ma forse è un po' troppo poco. Forse è poco, lei ha ragione, lei ha ragione. Eliminare del tutto i monumenti? Sì. E anche mandarli fuori dal Parlamento stesso, perché se uno non fa il proprio dovere, un impiegato qualsiasi se non fa il proprio dovere va via. Lei ha ragione Mariella, si dovrebbe prevedere che oltre una certa soglia, per esempio il 100% di assenze, per tutto l'intero mese di giugno non prendi un euro, cioè, su questo euro, non c'è dubbio. Esatto. Sì, è vero, dire. È vero. Lei faccia una campagna in tal senso, tutte le sere, nei martelli. Sì, grazie Mariella, ma è quello che abbiamo fatto nei giorni scorsi, cioè c'è una classifica imbarazzante per alcuni personaggi di assenze alle votazioni in Parlamento, ci sono poi delle giustificazioni, oltre che le missioni, spesso però farlocche, delle giustificazioni di carattere così medico, di carattere giustificazioni di salute, quando uno faceva la giustificazione a scuola, no? I motivi di salute, però indubbiamente ci sono dei casi clamorosi, quello di La Russa 100% di assenze, quello di Denis Verdini 100% di assenze, quello del signor Alfano 99%, la segretaria di Berlusconi Maria Rosaria Rossi 96%, me ne ricordo a memoria perché ce l'ho tutti qua, signor Calearo 100% anche lui. Non ci sono parole perché a pochi chilometri da noi, cioè la notizia di oggi drammatica veramente, la Spagna vicina al default, questi che dicono, il governo spagnolo che dice che non possiamo pagare i servizi, Schäuble che dice che rischiano anche altri paesi. Beh, che ma c'entra, dire, scusa. Ma come che c'entra? Qui tra poco, voglio dire, è una situazione gravissima e questi qui non si presentano neanche in Parlamento a fare quello che devono fare, cioè a votare. Ma il problema ma adesso non fare paragoni con la situazione in Spagna, con la situazione in Europa. Capiscono gli stati, ma e noi siamo qui a occuparci di chi co. Cioè qui c'è bisogno veramente di alzare l'asticella, di invitare dei grandi, come il professor Baciago ad esempio, delle persone che hanno delle visioni, no, che ci raccontino per ore qual è la situazione economica. Vabbè, adesso smettila con questa buffonata. Marco da Milano, grazie Mariella. Marco da Milano, bravo giornalista. No, è un signore che si chiama Marco e chiama da Milano, non è Marco vabbè, da Milano. Vabbè. Buonasera. Vada. Io un mese fa circa avevate ospite l'ex ministro Altissimo. Purtroppo non sono riuscito a intervenire. Sì. Mi sarebbe piaciuto però tanto fare questa domanda, come parliamo di economia, di problemi, e lui, mi ricordo, fu ministro dell'economia per brevissimo tempo e mi ricordo il suo faccione. No, non è stato simpatico. Ministro dell'economia, lei sbaglia, è stato ministro dell'industria. Ma lui doveva prima e disse una e non lo fece, secondo me, per questo, perché disse una cosa, la prima cosa che farò, non è mai stato in ballo, dato che lui è un filo americano. Anche perché il ministro dell'economia non esisteva. Sì, beh, però lui fece la proposta, ricordo perfettamente. Vabbè, che proposta fece? Di liberalizzare e di poter detrarre qualsiasi tipo di fattura come nell'economia americana, perché lui è sempre stato un filo americano. Vabbè, poi? Cosa, e questo è una cosa che io sono un commerciante, vivo nel mondo del lavoro e tutti noi qui al nord auspicavamo una legge di genere che poteva forse dare un significato per eliminare anche il problema del sottobosco, del nero, perché quando tutti noi possiamo scaricare qualsiasi cosa compriamo, quindi operandola vuol dire che abbiamo i soldi in tasca e questi soldi da qualche parte li abbiamo guadagnati, forse emergerebbe tutto il nero che c'è in Italia. Io mi ricordo che lui disse... Sì, ma questa è una vecchia, poi... è una vecchia proposta. Marco, adesso cosa c'entra questa mai cosa? Mai nessun economista, però... La dice, perché noi gente che lavoriamo, noi gente del bar, del popolo, gente, tutti se la auspicano, tutti se ne parla e mai nessuno dei politici la prende in considerazione. Io mi chiedo il perché. Quando in qualche Marco, ci sono delle persone che dicono che sia applicabile domani, altri che dicono invece che è molto complicato. Insomma, non ne parleremo certo stasera. Mariella da Trieste, l'abbiamo già sentita, toglietemela. Giorgio da Bergamo. Giorgio, pronto? Eccoci, dica. Pronto? Sì, vada. Eccomi qua. La mia domanda, l'istituto della Presidenza della Repubblica è un istituto? Sì. Il Presidente del Consiglio è un altro istituto? Sì. Mi spiegate dove sta la differenza che oggi Re Giorgio si straccia le vesti perché viene intercettato e prima non ha mosso un dito quando c'erano altre intercettazioni? Caro Giorgio, a questa domanda si risponde perché secondo alcuni il Presidente della Repubblica ha una protezione particolare. Comunque, in linea di massima è vero, molti si stracciavano le vesti, lasciamo perdere Napolitano, ma molti nel mondo dei giornali eccetera eccetera si sono stracciati le vesti per Napolitano, non hanno mosso un dito per quello che riguarda invece... Non c'è una piccola differenza. No, però. Non c'è differenza dal punto di vista dell'atteggiamento della stampa, dal punto di vista dell'atteggiamento della stampa non c'è differenza. No, ma della stampa non c'è, c'è che delle funzioni, cioè è nei poteri. Assolutamente no, sono due istituti della Repubblica Italiana. Sì. Parenzo, io so che lei sta battendo sempre il martello sulla sinistra. Sono due istituti della Repubblica Italiana. Non racconti panzane al pubblico. Se lei con il garbo che la contraddistingue mi lascia semplicemente ricordarle, non mi rompe i coglioni, che, e lo dico con rispetto, è nelle prerogative e nel potere del capo dello Stato quello di fare ricorso alla Corte Costituzionale per chiedere... Ma questo che c'entra? Questo nessuno l'ha messo in dubbio. Ma allora, questo lo può fare anche il Presidente del Consiglio, non c'entra niente. Certo. Allora, sentite, il punto è questo. Secondo alcuni c'è una protezione particolare del capo dello Stato, secondo altri no, cosa che non avrebbe il Presidente del Consiglio. Ma comunque, al di là di queste questioni giuridiche, mi pare evidente una cosa, che quando si è trattato delle intercettazioni del Presidente Napolitano, molti hanno detto è uno scandalo, è una vergogna, eccetera, eccetera. Quando si è trattato delle intercettazioni di Berlusconi o di altri, tutti quanti hanno detto è un diritto sapere quello che dice il Presidente del Consiglio. Questo è un dato di fatto. Adesso invece molti dicono dobbiamo distruggere subito le intercettazioni di Napolitano. Non va segnalato nulla, questa è la... No, solo un dato di fatto, la coerenza del Fatto Quotidiano e di Marco Travaglio. Non do giudizi, ma dico un fatto. Cioè, Marco Travaglio, Padellaro e loro... Vorrebbero che tutto fosse reso pubblico sempre. Esatto, lo hanno fatto con Berlusconi. Questo signore, no, ma per carità, questo nessuno simpatico di... signore che invece fa un unico calderone buttando dentro tutte le robe che gli passano per l'anticamera del cervello, non si è accorto di questo particolare. Cioè alcuni giornali, Repubblica semmai è in contraddizione, Repubblica è in contraddizione, quindi non è vero che tutti i giornali, non è vero. Allora, abbiamo subito un ospite, però Bossi, che ha parlato da poco, sentiamo subito, a proposito della scissione, scissione. Si parla di una possibile scissione nel partito. Ma speriamo di no. C'è questo rischio secondo lei? Sono sempre rischi. Speriamo di no. E poi Rosi Mauro. I reati non sono accertati. Dunque, dei dubbi pure sull'espulsione di Rosi Mauro da parte di Bossi. Senta, ieri lei ha accennato con Rosi Mauro. Potendo tornare indietro, si opporrebbe di più alla sua espulsione? Ma quando si tratta di espulsioni in conseguenze... presupposti, reati, bisogna che siano dimostrati. E non era dimostrato niente. È stata una scelta secondo lei eccessiva quella di espellere Rosi Mauro? No, tentativo di dare una risposta che servisse all'elettorato più che alla verità. Vedremo, il tempo dirà come stanno le cose. Però ricordo che Mauro fu espulsa perché si è rifiutato di dimettersi da vicepresidente del Senato, non per la questione degli scandali, almeno secondo la vulgata del tempo. E poi sulla leadership non dice chiaramente che il leader è Bossi, sentite invece che dice. È la gente che decide tutti i giorni, non è una volta per tutte. Quindi lei aspira ancora a poter guidare il partito? Io faccio quel che mi dice di fare la Lega. La gente insiste, chi guida deve sempre stare in equilibrio, non è una cosa una tanto, no? Questo era Bossi questa sera, qui c'è sempre roba subito disponibile, roba in anteprima. Forse il mercato, sei un grande. Roba, Zanzara, pronti un Bossi. Graziano Ballinari, buonasera. Buonasera. Come sta? Io sempre bene. Allora, Graziano Ballinari, sai chi è Parenzo? Graziano? Ballinari. Ma chi non lo conosce Ballinari, è famosissimo. È un oste, vero? Cuoco? Cuoco? Sì, no, sì, oste, cuoco, storico e collezionista. Collezionista di che cosa? Di storia. Sì, e in particolare di cosa? Io sono l'unico mutandologo al mondo. L'unico mutandologo, ve lo ricordate ai tempi anche del Costanzo Show? Certo, ma sì, no, perché io ho raccolto le mutande, 50 anni sono impiegato per avere tutte queste mutande, vi dico prima. Sì. La storia è mutande, la mostra che ho aperto adesso, perché l'Italia ha bisogno, e tutti, anche voi avete bisogno di questa mostra per riflettere un po'. Eh beh, certo, vedere le mutande per riflettere mutande un po'. Sono pulite però. A parte pulite, dal lungo al corto sono stati passaggi politici, sociali e religiosi, delle cose fantastiche sulle mutande. Cioè, le mutande ci fanno capire la storia. Intanto le mutande, il coprivulva imperiale della Castiglione ha unito l'Italia. Se lei non abbassava le mutande, l'Italia non era grande, non era anche unita. Cioè, ci spieghi perché? È perché lei... Napoleone III non si decideva a ritirare questo esercito, e allora Cavour gli ha detto: tu vai a fare una notte d'amore insieme, e è stata capace a far fiammare. Ecco, ritirare un esercito intero, per quello che si dice tira tu sei quaterpede potere, capisci? Scusi un attimo, signor Ballinari, signor sì. Mutandologo, ma queste mutande lei ce l'ha? Sono originali? Originali. E come ha fatto a prenderle queste mutande? Legate 50 anni, prima quelle delle città contadine che sono state in un paese. No, ma queste qua della cosa, della contessa di Castiglione. A Torino, ho conosciuto dei nobili, in 50 anni ho conosciuto tanta gente, sapendo le mie passioni, che ho fatto un concatalogo con le firme. E quanto l'ha pagata, per esempio? Oppure la gente gliele dava, beh, diamo queste mutande, tanto no, che... ho mai pagato niente. Anche mai pagato nulla? Anche quando ho fatto un appello nel 2000 a Univa Zanicchi e Domenica Inn, e mi sono arrivate anche di reali, ma senza mai pagare niente. Ma le vuole le nostre? E quanto valgono? Quanto valgono? Quelle mie di Cruciani. Beh, ad esempio, quelli della Regina Vittoria, che avete visto che ho venduto, me l'hanno pagati 5.700 euro. Ah però. Sì, quanto possono avere le mutande di Cruciani, ad esempio? Le mie mutande quanto valgono, secondo lei, signor Ballinari? No, le tue non valgono proprio niente, perché non hanno storia ancora. E non hanno lavori, non hanno pizzi, perché non sono mutande. Lo dice lei che non hanno storia. Sa quante cose hanno visto quelle mutande? No, perché la storia si deve sapere. Queste sono mutande che hanno fatto sapere la storia. La Bella Rosina, ad esempio. Sai chi è la Bella Rosina? No, chi è? La Bella Rosina è l'amante quindicenne del re Vittorio Emanuele II, che anche lui era un omino piccolo, però sempre voglioso, un po' come Silvio. E aveva queste ragazze tutte intorno. Sì. E lì le sue mutande, ad esempio i mutandoni di Pizzo, denotano anche il carattere della persona, il colore. E questa qua che significa calore, sì. Umanità, cosa che la signora, invece la moglie, la principessa, non aveva. Allora fra poco, dopo il traffico, il mitico mutandologo, in possesso di mutande importantissime, di persone famosissime del passato, invece ci illustrerà le mutande che possiede dei politici attuali. E qui veniamo al bello, caro Parenzo. Qui ho capito una cosa innanzitutto, che le mie mutande non valgono nulla, zero. Hai capito? Questa è una cosa che mi ha messo un po' in depressione. Le mie meno di zero. Allora. Quelle di Parenzo, Ballinari? Ecco, quelle di Parenzo forse qualcosa, però ti dico una cosa. Ma come forse qualcosa? Scusi, le mie non valgono un cazzo e quelle di Parenzo sì. Un po' particolari. In che senso? Scusi, non ho capito. Le mie mutande non valgono niente e quelle di Parenzo sì. Scusi, questa non l'ho capita. È particolare, ha quel fascino della radio, quello che non si vede ma che lo immagini. Ma scusi, ma perché io che fascino? Pure io. No, ma perché... no, tu hai la voce troppo da presentatore. Ma che presentatore? Ma quando mai? È grande questo cuoco. Questo Parenzo è in calore, sembra di averlo in casa. Giorgio da Bergamo. Niente, ragazzi, Stefano da Roma. Sì, buonasera. E senta Cruciani, innanzitutto le volevo fare veramente i miei più cari complimenti per la trasmissione, perché lei secondo me è il miglior giornalista che c'è in assoluto. No, non dica stupidaggio, su. No, guardi, io veramente lo dico sincero. No, ma non è così, per cui vada avanti e vada al sodo, non dica stupidaggini. Ma vabbè, non è che la prendo in giro. Ma non è prendere in giro, ma anche se non mi prendesse in giro sarebbe uguale, su. Vabbè, senta, comunque allora io le volevo dire questa cosa sostanzialmente. Io sono malato, almeno mi sento malato perché sono gay. Ma no. Ma no, non si senta malato, perché dovrebbe sentirsi malato, scusi? No, è perché che ne so, è tutti, cioè se pensiamo anche, che ne so, a tutte le icone che abbiamo davanti, che ne so, Berlusconi che è vero maschio. Sì, come si fa? Come si fa in questo mondo? E che ne so? Non lo sa lei. E allora? No, non so, pensavo di trovare un riscontro da lei. Ma in che cosa, Stefano? Non ho capito che riscontro vuole trovare. No, del fatto che io mi sento malato perché sono gay. Ma non dovrebbe sentirsi malato? Lei ci sta un po' coglionando. No? Perché non dovrebbe sentirsi malato? Comunque, prende un'aspirina. Cioè, lei ci sta un po' prendendo in giro, ma noi non ci caschiamo, caro Stefano. Ma no, ma non la prendo in giro, ma... Ma che sintomi si sente? Che sintomi sente? È caduto. Angelo da Napoli. Angelo? Buonasera. Buonasera, sono Angelo. Dica. Buonasera, Cusani. Niente, volevo riallacciarmi a prima, per quando si parlava di Bossi e Maroni. Io sono un dipendente filmeccanica e volevo solo dire che in realtà la scalata di Maroni è iniziata molto molto tempo prima, circa 2 anni fa, e io l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, diciamo così. In che senso, come dipendente? Perché al nostro interno ci sono state delle nomine fatte dalla Lega, poi fatte anche servizi in TV, e praticamente ormai chi ha il potere e i vertici dell'azienda, ma anche di tutte le controllate, ci sono solo gente del nord, ecco, questo volevo dire. Vabbè, ma che la Lega abbia avuto voce in capitolo nella gestione di Finmeccanica non è una novità, Angelo. Ma soprattutto Maroni, sì, e la moglie di Maroni, che poi, diciamo così... La moglie di Maroni? Che c'entra la moglie di Maroni? Sì, la moglie di Maroni è un ex dipendente Finmeccanica, sì, in realtà è Alenia Armacchi. Sì, allora? È il capo del personale e quindi... hanno fatto tutto un giro per una serie di nomine. Adesso chi comanda le aziende contrarie a Finmeccanica sono tutte persone vicine alla Lega Nord. Provenienti dall'area della Lega? Assolutamente sì. Assolutamente vabbè, sì. Ma questo qua è lo spoil system all'italiana, come dire? E infatti io sono un ingegnere e sono totalmente deluso, perché per chi è a sud adesso non c'è praticamente nessuna possibilità di crescita dal punto di vista professionale. Ecco, per qui. Chi è del sud? Cioè, c'è stata proprio un'opposizione a chi... No, vabbè, non c'è un'opposizione, ma se, voglio dire, come posso dire, se si favoriscono alcuni filoni mentre altri no. Puoi essere anche tanto bravo quanto... Ho capito. Grazie Angelo. Mutandologo? Sì, dica tutto. Quanto valgono le mutande della Minetti? Beh, la Minetti valgono tanto, perché prima non è certo che li porti, no? Perché con la Minetti non sai mai dove lo metti, bisogna dire questo. E bisogna dire che racconta una pagina di storia del momento attuale. È la donna in carriera, è trasgressiva, è forte, è quella che parlare con lei come fare una sega a un morto, che va avanti con la sua strada senza calpestare tutti. Questa è la realtà che abbiamo qui. E allora le mutande quanto valgono? Le mutande della Minetti? Valgono anche 100.000 euro. Addirittura. Sì, Ma è vero che lei ha le mutande di Tosi Bindi? No, questo sì, no, è vero. Tra l'altro mi sono anche un po' girate. Come? No, la signora mi è molto simpatica. Le dirò anche che quando l'ho conosciuta io non è così brutta come tutti dicono. È una signora normale e aveva un certo che di sexy. Addirittura. Io la trovo più sexy lei che la Belen, tra l'altro, perché me le donne... Mutandologo, su. Le donne troppo spogliate che fanno... Ma lei ha già detto che le mie mutande non valgono quelle di Parenzo? Sì, dunque non è credibile. No, non è credibile, è vero. Non è che non è vero. Tutte le danno addosso a una signora. E se tu vedi le sue mutande che ho avuto del 96... Ma come mai? Ma lei nega però, E lei nega, ma i politici italiani negano tutto, negano le ville, le barche, le donne, gli amanti, cosa non nega in Italia? Tutti negano, se no che Italia l'avremo a posto. Scusi, però come si fa a dirimere la questione? Che prove ha per dimostrare che sono le mutande della Bindi? Perché c'erano due testimoni. Ho capito. Il professor Pazzaglia e questa signora bionda che è la sua segretaria. Poi la sua fare una prova. Scusi, ma come sono arrivate a lei queste mutande? Allora, sono arrivati, io andavo dal Costanzo, sono arrivate, l'ho conosciuta, era il primo anno che era ministro, era poco comunque, c'era, mi ha anche affascinato, tra l'altro, e ridendo io le chiedo a tutti le mutande, ho chiesto alla Giannicchio, che sta a tutti, e le ho chieste, lei ridendo spiritosamente, si viene, domani mattina gliele manderò, E al mattino è venuto il signor professor Pazzaglia al Ritz con questa signora che si è definita la segretaria della signora e mi ha dato queste mutande che sono bellissime, semplici, con dei fiorellini, proprio determinatezza, un po' di civetteria, una cosa meravigliosa sono invece. E scusi, che taglia sono? Che taglia sono queste mutande? 46. 46? Sì, no no, anzi vorrei che tu rivedessi perché veramente forse le dai anche il voto. Addirittura? Sì. Beh, addirittura adesso basarsi sulla mutanda per dare voto mi sembra un po' esagerato. No, allora le mutande. E poi che mutande hai oltre a quelle della Bindi? No, io ne ho 500, però. No, di politici, di politici. Di poi c'ho quelle di Fanfani, quelle di Nil Deiotti. Di Fanfani. No. Di Fanfani, di Nil Deiotti, del re, della regina José. Dei politici italiani, che hai? Romita, vabbè, Romita. Poi? Fanfani, poi Nenni, Pietro Nenni. Pure. Un cantapalli era. Ma come hai fatto a arrivare alle mutande di Fanfani? Beh, Fanfani non è stato così difficile. Io non ho solo le mutande di Fanfani, ho molti altri oggetti. Io per Roma col professor Pazzaglia e di vari amici che avevo. Ma ho capito, ma com'è possibile? Cioè tu mandavi delle lettere di Cicchitto? Le mutande di Cicchitto? Ma che c'entra Cicchitto adesso? Io di quei moderni non mi interessano neanche perché non raccontano solo ladrerie, diciamo. Io mi interessa quelle che è cominciato sì. a fare. Vabbè, pure la Bindi è moderna pure. La Bindi è moderna però. Ma è moderna, ma proprio 20 anni fa era solo all'inizio, non sapevo neanche che avesse una carriera così folgorante. Senza abbassare le mutande, tra l'altro. Diciamo questo. Proprio perché carattere fermo e posizione e le idee ferme. Beh, una donna così deve. Sai che viene criticata molto su questa storia dei gay, no? Adesso. Sì, no, appunto quello che il signore dice che è gay, ma lui sa che i sentimenti passano sotto le mutande, si va a godere la vita, lo dia chi vuole, non rompe coglione a nessuno. Ci fa tante seghe mentali perché lui è gay. Ma lo dica, gay lo dica la Bindi, però. Ma alla Bindi sarebbe il primo a dirgli, le lasci vivere, ognuno ha dei gusti che vogliono. Certo, ma le mutande di Berlusconi non ce l'ha? Beh, le mutande di Berlusconi non l'ho avuto, mi piacerebbe. Se magari in ascolto me le manda, lui credo che un uomo di spirito. Valgono parecchio anche quelle, valgono parecchio. Le battaglie ne hanno fatte. Valgono parecchio le mutande di Berlusconi. La mostra, non ho le mutande, però ho messo la fotografia, due fotografie insieme, sì. Mussolini e Berlusconi, e a volte ritornano. In mutande? In mutande? Sono due che le mutande della Clarita Petacci. Quanto valgono le mutande di Berlusconi? Non c'è somma, credo. Non c'è prezzo, non c'è prezzo. Però le dico una cosa. Che Mutandologo, devo chiudere. Mutandologo, devo chiudere. L'abbraccio fortissimo, a presto. A domani. Ma allora digli alla Minetta di mandarmi le mutande. Popolo della Zanzara, 18:30. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.